Allora, comincio prima di lasciare la parola ai compagni a una breve introduzione. Abbiamo pensato di dire due parole per raccontare chi siamo come Assemblea Romana contro il Green Pass, quando siamo nati, che cosa abbiamo fatto fino adesso, diciamo. E noi come Assemblea Romana contro il Green Pass ci vediamo più o meno da settembre. Siamo una composizione abbastanza mista, nel senso ci sono compagne, compagne e gruppi che insomma più o meno organizzati anche da prima e poi tanti singoli e singole e ci siamo ritrovati a settembre, proprio all'inizio l'Assemblea erano innanzitutto un luogo dove superare la solitudine e il malessere che tutti quanti abbiamo vissuto in questi 2 anni e quindi innanzitutto ci ha fatto molto bene ritrovarci in un luogo a parlare di come questa situazione di emergenza, di gestione dell'emergenza autoritaria ci lavorava, diciamo, sulla pelle. La nostra prima uscita pubblica di piazza è stata il 9 ottobre, dove ci siamo ritrovati in quella piazza del Popolo, diciamo, particolarmente in quel giorno dominata da forze di estrema destra, insomma ben note, quella giornata in cui poi c'è stato l'assalto alla CGIL, e noi lì siamo andati con questo striscione che ancora ci portiamo in giro tutte le volte, che riassume ancora le nostre parole d'ordine principali, che appunto lo striscione dice contro il Green Pass, ma soprattutto contro lo stato d'emergenza, disertiamo la guerra del capitale. E in quell'occasione un primo risultato, anche se piccolo, c'è stato, nel senso che mentre appunto qualcuno andava all'assalto della CGIL e qualcuno si scontrava con le guardie per andare all'assalto di Montecitorio, noi siamo riusciti a fare un corteo spontaneo e selvaggio che, insomma, innanzitutto per l'animo è stato molto divertente, e però il risultato che volevamo un po' ottenere era essere un punto di riferimento per tutta quell'area di persone, compagni e compagne anticapitaliste che hanno una posizione di classe, una visione di classe della storia e di quello che sta succedendo, essere quel punto, rappresentare, diciamo, un inizio di punto di riferimento per dire che l'opposizione alla gestione autoritaria della pandemia può e deve venire anche da sinistra, nel senso dalla sinistra di classe, in un'ottica anticapitalista. Da là abbiamo partecipato anche alle altre piazze spontanee che si sono date fino a più o meno a novembre, dopodiché abbiamo deciso anche di fare un lavoro territoriale organizzando delle assemblee pubbliche in piazza nei quartieri a noi più, per noi più conosciuti, dove siamo più radicati, che appunto è questo quadrante di Roma Est. Dopodiché una terza fase in cui da quelle piazze ci siamo rispostati in una piazza centrale che è quella di San Giovanni, che è stata anche un simbolo delle piazze spontanee, e abbiamo rilanciato l'appuntamento della piazza fissa che ancora teniamo tutti quanti sabati, e che più o meno vede la partecipazione sempre di persone diverse che innanzitutto si sfogano rispetto a quello che è questa situazione, però incominciamo ultimamente in questi giorni a vedere che ci sono anche degli atteggiamenti propositivi da parte delle persone che poi animano quella piazza del sabato insieme a noi. Ovviamente c'è stato anche il 15 gennaio un momento in cui quella piazza che noi avevamo indetto è stata poi riempita da altre componenti, insomma, che sono in lotta e con cui condividiamo fino a un certo punto i discorsi e l'orizzonte politico. E anche in quel caso abbiamo cercato di far partire un corteo per chiamare le persone, diciamo, soprattutto per rompere questo discorso legalitario per cui si crede che, nonostante si urli che il Green Pass fa diventare il diritto di cittadinanza una concessione del potere e tutte le posizioni, diciamo, di libertà alla cittadinanza collegate, nonostante si dica che questo è il quid dello stato d'emergenza, poi si fa appello alla Costituzione, ai mezzi legali di lotta, quindi per rompere, tanto che ormai è diventato violento anche fare un corteo, quindi per rompere con questa posizione abbiamo cercato di fare un corteo che non ci è riuscito, ma alcune dinamiche, diciamo, di opposizione alla polizia spontanea si sono date e non è stato così negativo anche quello come risultato. E adesso però forse vorremmo aprire una quarta fase, nel senso che continueremo a tenere l'appuntamento delle piazze del sabato fisso, però ci rendiamo conto che è il momento di rilanciare e anche di rilanciare insieme agli altri compagni che nelle altre città d'Italia si stanno mobilitando anche con, diciamo, in certi casi più conflittualità di quanta riusciamo a esprimere a Roma, per rimettere il focus, diciamo, sullo stato d'emergenza. Quindi in queste settimane vorremmo cercare di fare la proposta di costruire a livello nazionale un appuntamento, una manifestazione che metta al centro del discorso di nuovo lo stato d'emergenza e tutti i dispositivi a questo collegati. Adesso vedremo se sarà a marzo in concomitanza con alcune date simboliche tipo quelle del 31 marzo, dove dovrebbe cessare questo stato d'emergenza, ma diciamo soltanto quello che in realtà viene meno è soltanto un titolo di legittimazione dei loro poteri di emergenza, nel senso che non potranno più rinnovare i poteri collegati a tutto il sistema della protezione civile, perché non glielo permette lo stesso codice della protezione civile, ma probabilmente, anzi siamo sicuri, che si continuerà ad utilizzare lo strumento della legislazione d'emergenza come è da 50 anni a questa parte in questo paese per vari motivi, e quindi diciamo mobilitarci contro lo stato d'emergenza, perché questo passaggio del 31 marzo sarà semplicemente fittizio. E, io penso che questo può bastare come introduzione, e lascio la parola a Laura. Allora, ciao a tutti e tutte. Ciao a tutti e tutte, è un piacere poter essere, diciamo, qui e poter iniziare, diciamo, questa discussione e confronto con compagne e compagni. Sì, compagni e compagni che si occupano, diciamo, in questo caso, no, nell'approfondimento e nell'affilare, diciamo, le armi su un discorso di che cos'è la digitalizzazione, chiaramente non soltanto da adesso, ma percorsi che nella realtà vengono da tanto tempo di studio, sia questo che la cura del sé, che a volte dovrebbe avere un ruolo anche molto più chiaro e che in questo momento nella realtà ci viene, diciamo, presentata davanti esattamente questo legame, cioè questo legame adesso diventa palese, cercando di istituire una palestra, diciamo, di obbedienza con delle emergenze sanitarie piuttosto che con dei dispositivi, diciamo, di controllo. E esattamente il motivo di questo incontro qui è per cercare di capire come riusciamo a conoscere meglio, come riusciamo a condividere, come riusciamo esattamente a interrompere, diciamo, questi meccanismi sia di obbedienza che sono intrisi, e capire, diciamo, anche oggi chi è che attorno a noi è qui e che prende, diciamo, una posizione rispetto a questo. Non sono brava a fare, diciamo, delle introduzioni, diciamo così, generiche, perché la volontà è soprattutto quella di creare un elemento, diciamo, di dibattito su una serie di questioni che il documento ha posto, e cercare poi in questo di sviluppare e di rendere, diciamo, un poco più chiaro sia quali sono i percorsi che ci potremmo avere davanti dall'analisi del PNNR, a proprio come diciamo, come dobbiamo interrompere questa necessità di profitto e di controllo che rende appunto questo discorso sull'obbedienza accettabile senza nessun tipo di insubordinazione. Non credo e non so di essere stata particolarmente chiara in questa introduzione, ma anche senza nessun remora vorrei appunto lasciare la parola intanto ai compagni e alle compagne che sono qui, per poi magari capire come riusciamo a sviluppare un dibattito insieme. Eh, Allora, ma allora io volevo partire, diciamo, da un concetto, ovvero se negli ultimi 2 anni si è cercato di affrontare la situazione che ci ha coinvolti un po' tutti, chi per un aspetto, chi per un altro, fino ad arrivare ad oggi a cercare di capire anche che cos'è il Green Pass, che cos'è la digitalizzazione, cos'è la transizione digitale. Si sono affrontati tanti aspetti, forse quello su cui si è passati sopra un po' più superficialmente, senza cercare di entrare un po' nel dettaglio, è l'aspetto militare, ovvero l'avanzamento delle proprio tecnico militare, che porta poi a capire da quale tipo di mondo anche arrivano certe cose, certe istanze che ci cadono addosso. E quindi io provo inizialmente a fare una... Vuoi fare un lavoro? Sì. Provo a entrare un minimo nel dettaglio di alcune cose, spero di essere chiaro. Insomma. Sicuramente negli ultimi decenni il complesso militare industriale si è fuso sempre di più con tantissimi aspetti della nostra vita. E per capire alcuni passaggi credo che sia fondamentale comprendere soprattutto quali sono i legami tra appunto la digitalizzazione, i processi di cambiamento nella sanità e come questi aspetti siano legati proprio alla guerra in sé e all'avanzamento tecnoscientifico in campo militare. Per questo motivo voglio provare a partire soprattutto da due aspetti. Uno, che è quello della cosiddetta immaterialità della digitalizzazione, ovvero cercare di sfatare questo mito. Ci sono diversi libri che ne parlano, che parlano di cosa occorre per fare in modo che il mondo digitale sia efficiente. E poi un secondo aspetto, che è quello dell'importanza dell'ingegneria genetica in campo militare, anche come scontro odierno tra superpotenze, nel tentativo di arrivare sempre più avanti in questa nuova, ormai non così nuova, frontiera, che è quella proprio del campo dell'ingegneria genetica e della biologia sintetica. Per comprendere cos'è la digitalizzazione bisogna passare attraverso a quello che alcuni studi hanno cercato di affrontare, che sono i cosiddetti metalli rari o terre rare. Questi metalli rari, così definiti, sono degli elementi che si trovano in natura in quasi tutto il mondo e vengono definiti così, rari, appunto perché la loro lavorazione è molto complessa e comporta un utilizzo sia di energia che di macchinari molto specifici per far modo di riuscire a separarli da altri materiali che sono uniti a questi metalli, appunto, e sono sostanzialmente ciò che occorre per costruire microchip, circuiti elettronici e qualsiasi cosa che oggi serve per fare da un computer a un telefono cellulare, alle batterie delle macchine. Quindi quando noi ci immaginiamo il mondo di internet come qualcosa di immateriale e come viene, diciamo così, propagandato nel cosiddetto Green New Deal, ovvero nella transizione ecologica, così la chiamano, dobbiamo immaginarci un mondo che deve passare attraverso delle lavorazioni che sono enormi. Questo tipo di lavori, ovviamente avendo dei costi elevatissimi, vengono fatti in zone in cui la manodopera deve essere molto bassa. E Perciò è ovvio immaginare che non vengono fatti esattamente in Germania, ma questi metalli vengono ricercati poi in Sud America, in Africa, in Asia centrale soprattutto, e in Cina. In più va aggiunto che una volta messi in funzione determinate strutture che poi tengono in vita quello che è appunto il mondo di internet, c'è bisogno di un utilizzo di energia elevatissimo sia per il raffreddamento che per proprio la manutenzione e la funzionalità dei cosiddetti data center, ovvero queste banche dati enormi in cui ci sono i cosiddetti supercomputer che lavorano per il mantenimento di internet, che hanno un consumo di energia elettrica che è qualcosa di inimmaginabile. Cioè, più o meno dicono che uno di queste strutture qui, secondo alcuni studi, consuma tendenzialmente come una città di 30.000 abitanti sempre accesa al giorno. Uno degli esempi, diciamo così, forse indicativi, che ci può far capire cosa significa questo consumo energetico qui, è quello che sta succedendo adesso in Kazakistan. Lì si può dire che negli ultimi anni la Cina ha messo al bando sostanzialmente tutte le produzioni sulle criptovalute, quindi sui cosiddetti bitcoin. Per questo motivo qui un sacco di aziende si sono spostate verso il Kazakistan per fare queste centrali per quello che viene definito il mining, no? Per la produzione di bitcoin. Il Kazakistan è diventato per questo motivo il secondo produttore di bitcoin al mondo dopo gli Stati Uniti. In Kazakistan inoltre ci sono tantissime zone che sono già utilizzate a livello minerario per l'estrazione appunto di questi metalli rari e di queste terre rare. Dobbiamo considerare il fatto che durante l'estrazione il livello di cancri, di tumori, di effetti sulla salute delle persone che vivono in quegli ambienti dove le estrazioni vengono fatte è elevatissimo. Proprio per il tipo di lavorazioni che vengono fatte. Una grandissima parte di energia elettrica del Kazakistan è stata spostata per mantenere in vita sostanzialmente questi enormi data center, e alcune città si sono spente proprio perché l'energia elettrica è stata spostata tutta lì, e oltre ad esserci stato un aumento esponenziale dei prezzi dell'energia elettrica. Quando pensiamo agli scontri e le rivolte che ci sono state in Kazakistan, bisogna contestualizzarle all'interno di questo contesto qui. Cioè, questa è la transizione digitale che non avviene nella parte del mondo che noi siamo più abituati a vedere, diciamo. Esempi di questo tipo di transizione ci sono anche qua. Un esempio di pochi giorni fa uscito su Il Sole 24 Ore è di una centrale idroelettrica in Trentino, da dove veniamo noi, che utilizza appunto un fiume o almeno questo è il progetto che dovrebbe essere pronto nel giro di non tantissimi anni. Da questa centrale sono stati acquistati 20 supercomputer e altri 20 dovrebbero essere noleggiati, e l'idea è di spostare il mercato sulla produzione dei bitcoin e del mining. Negli ultimi due anni va considerato anche il fatto che il traffico internet, proprio per i lockdown e per le proposte che sono state fatte nel, diciamo così, restate a casa, si è sostanzialmente triplicato, e questa cosa qui comporta dei consumi che sono un impatto ambientale che ovviamente lo si riesce a riconoscere solo se si cerca di comprendere poi come quel mondo viene costruito. Diciamo il mondo digitale, quello che stanno costruendo, è quello che sarà probabilmente il nocciolo delle guerre del prossimo futuro. Gli stessi stati stanno dicendo chi controlla i minerali oggi controlla l'industria, e il capitalismo si sta spostando sempre più in questo senso qui. Sarebbe utile, ma io questa parentesi non la apro, fare poi un approfondimento su quello che è stato definito da diversi ricercatori il capitalismo della sorveglianza, ovvero come poi il mondo digitale non solamente, cioè cioè il capitalismo digitale si alimenta anche di dati e delle nostre vite, sostanzialmente di ciò che viene concesso attraverso i dati, e come poi per sopravvivere quel mondo lì abbia bisogno di una struttura per cui cioè devono essere sostanzialmente le macchine stesse a comunicare tra loro. L'infrastruttura che renderà possibile questo tipo di mondo è l'inizio di quello che sarà quel mondo lì, è il 5G. Qui si può fare un collegamento, ovvero il tipo di mondo digitale che si sta costruendo è ciò che renderà funzionale anche tutto un aspetto della sanità, ovvero sta facendo in modo che la sanità stia diventando qualcosa di diverso, ovvero come stanno dicendo molte case farmaceutiche ma anche organizzazioni, il tentativo è quello di spostare la sanità da qualcosa di proattivo, dicono, a qualcosa di preventivo. Questo perché è qui si inserisce l'importanza dell'ingegneria genetica, dei passi che stanno facendo e delle terapie digitali. Viene più utile cercare di capire quali sono i passaggi facendo un esempio. Io ho voluto portare un esempio che è quello di un'organizzazione no profit, che è un'organizzazione britannica che si chiama Wellcome Leap, che è probabilmente la seconda organizzazione più influente a livello mondiale dopo la Bill e Melinda Gates Foundation, che è stata quella più influente, la seconda più influente sulle decisioni che sono state prese negli ultimi 2 anni per cercare delle soluzioni, così vengono definite, per la pandemia da Covid. Questa organizzazione qui mette anche in evidenza quali sono i legami, le fusioni appunto tra le piattaforme digitali e il campo militare. Wellcome Leap nasce nel 2018, i suoi principali esponenti, ovvero presidente e direttore dell'organizzazione, sono due personaggi fuoriusciti da DARPA. DARPA è il centro per la ricerca avanzata del Pentagono, sostanzialmente. La presidentessa di Wellcome Leap è stata l'ex direttrice di DARPA dal 96 fino al 2012. Si chiama Regina Dagan. Dopo il 2012 lei ha fatto la sua carriera sostanzialmente in Google, aprendo un ufficio specifico per le cosiddette tecnologie indossabili. Dopo essere stata in Google, viene proposta come nuova presidente per questa organizzazione appena nata, nel 2018. Nel 2012, prima di finire il suo mandato in DARPA, la Dagan fa iniziare una serie di finanziamenti da parte del Pentagono alle case farmaceutiche Moderna e Pfizer. Questa cosa succede perché il Pentagono già stava studiando le tecniche per andare ad agire sull'RNA. Quelle tecniche lì venivano utilizzate dal Pentagono non per scopi di salute, ma per creare i cosiddetti super soldati, che è una cosa per il momento utopica, ma che vabbè, poi ci arriveremo, faccio un piccolo excursus su questa cosa qua. Un secondo personaggio di questa organizzazione qui si chiama Ken Gabriel e lui era uno che faceva parte del reparto sulla ricerca delle componenti microelettromeccaniche di DARPA e era il vice direttore. Lui ha sostanzialmente seguito Regina Daga nella fondazione di questa nuova organizzazione. Gli altri due sono Jeremy Farrar, ex presidente del World Economic Forum, nonché presidente anche, se non mi ricordo in quale anno, dell'OMS, e un tale Jay Flatley. Jay Flatley è il direttore di un'altra azienda, che è un'azienda per il sequenziamento genomico, probabilmente la più imponente degli Stati Uniti. È quello sostanzialmente che, secondo diversi studi, dà tutti i macchinari, costruisce tutti i macchinari per il sequenziamento genomico per quasi tutti i laboratori dell'Occidente. Nel 2016 la sua azienda, che si chiama Illumina, propone un piano quinquennale per portare la genomica dai laboratori di ricerca fino agli dai laboratori di ricerca agli ambulatori medici. Sostanzialmente vuole commercializzare nell'ordine di 5 anni queste tecniche, queste tecnologie. Una proposta sempre fatta da Illumina, sempre nel 2016, è quella di iniziare un tracciamento genetico alla nascita dei bambini, per proprio in chiave di cambiamento del paradigma sulla salute, ovvero noi non dobbiamo più curare le malattie, ma dobbiamo iniziare un percorso che è quello della prevenzione. Dobbiamo cercare di appunto fare queste banche dati enorme sul sequenziamento genetico. Welcome Leap si divide in quattro, cerco di essere breve, scusate, sono stato lungo. Si divide in quattro programmi, di cui più un quinto che è nato il mese scorso più o meno. Questi quattro programmi sono dichiaratamente, per usare un termine non più così nuovo, transumanisti, ovvero il primo programma si chiama HOPE e l'idea è quella di ricostruire organi meccanici o ibridi da poi poter inserire all'interno dei corpi umani. Il secondo si chiama One Mile Days, il tentativo è quello di cercare delle risposte sui cervelli in via di sviluppo, quindi costruire dei cervelli in laboratorio sulla base delle reti neurologiche e attraverso l'intelligenza artificiale e i cosiddetti sensori mobili e le tecnologie indossabili, trovare per il momento, insomma, su base volontaria dei bambini che fin dalla nascita utilizzino questi sensori indossabili per studiare il cervello in crescita nei primi 3 anni. Un terzo programma si chiama Delta Tissue, e si tratta esclusivamente di medicina di precisione, così come viene definita, ovvero quella che va a lavorare direttamente sul DNA e l'RNA, quindi editing genetico, gen doping, diciamo quel mondo lì. E l'ultima, che è piuttosto interessante, si chiama Multistage Psych, che è un programma di cura della depressione. Questa depressione in base, adesso farò una citazione sulla base di come loro intendono questo termine. Il progetto prevede di riuscire a stimolare determinate parti del cervello umano per fare in modo che di andare a intervenire direttamente sull'umore, sostanzialmente, ovvero cercare di cambiare l'umore. L'umore. Beh, dico due citazioni di questo programma perché sono abbastanza indicative. Beh, questo è quello che spiega, diciamo, cos'è. Attraverso studi su modelli animali e umani abbiamo scoperto che gli stati emotivi sono codificati in complessi modelli di attività della rete neurale e che cambiare direttamente questi modelli attraverso la stimolazione cerebrale può modificare l'umore. Sappiamo anche che l'interruzione di queste reti delicatamente bilanciate può portare a malattie neuropsichiatriche. Dobbiamo ricordare che all'interno di questo programma, oltre a esserci dei militari, ci sono delle persone molto legate a quello che è il World Economic Forum e quindi sono totalmente interessati a fare in modo che diciamo, questo approccio diventi un approccio per produttivo, sostanzialmente per la produzione. Tant'è che dicono questo anche, uno degli obiettivi di questo programma. Non siamo molto interessati ad una ricerca sulla riduzione del piacere consumistico, sull'esperienza in generale del piacere o sull'incapacità di provare piacere. Piuttosto, come descritto sopra, daremo la priorità alle indagini sulla anedonia, che è questa parte del cervello che andranno a toccare, a modificare, in relazione ai danni nel sistema di ricompensa basato sullo sforzo, ad esempio sulla ridotta motivazione a completare i compiti e alla diminuita capacità... Sì. No, perché c'è interferenza acustica. Certo. Piuttosto daremo la priorità alle indagini sull'anedonia in relazione ai danni nel sistema di ricompensa basato sullo sforzo, ad esempio alla ridotta motivazione a completare i compiti e alla diminuita capacità di applicare lo sforzo per raggiungere un determinato obiettivo. Questo vuol dire che per loro la depressione non è uno stato di salute psicofisica di una persona che in un determinato contesto sociale ha delle difficoltà. Ci possono essere dei problemi nel sistema produttivo perché sempre più persone sono stressate, depresse, e quindi noi dobbiamo intervenire, se ci riusciamo, direttamente a livello di medicina di precisione, per fare in modo che le persone siano motivate nella produzione, a produrre sostanzialmente. Questi personaggi qui sono coloro che finanziano e stanno portando avanti, diciamo, tutta quella che è la propaganda sia sulle vaccinazioni ma anche sulle piattaforme digitali come il Green Pass. Un piccolo aneddoto, poi chiudo, che vale la pena sottolineare è questo. Welcome Trust, che è diciamo, l'organizzazione che nasce negli anni 30, da cui prende vita poi Welcome Leap, che è esattamente una branchia di questa organizzazione, ha dei rapporti di estrema vicinanza, ovvero ci sono alcuni componenti che sono gli stessi, con un istituto inglese che si chiama Galton Institute. Il Galton Institute è quello che è venuto dopo, ovvero la conseguenza di una società inglese che si chiama UK Eugenics Society. Questa società, il presidente di questa società era Julius Huxley. Lui è stato quello che ha coniato il termine transumanesimo. E in uno dei suoi libri, che si chiama New Battles for New Wine, diceva questa roba qua: gli obiettivi eugenetici di ingegneria biologica dell'evoluzione umana dovrebbero essere raffinati attraverso le tecnologie transumaniste, che combinano i metodi eugenetici dell'ingegneria genetica con la neurotecnologia in grado di fondere uomini e macchine in un nuovo organismo. Huxley cercava sostanzialmente di riabilitare l'eugenetica nel secondo dopoguerra. Questo libro qui è stato scritto nel 1957, dopo che dei piuttosto noti scandali avevano portato, diciamo, l'eugenetica a non avere poi così tanti, diciamo, una grande fama, diciamo così. secondo noi è in questo quadro che devono essere ricondotti alcuni passaggi che stanno avvenendo, che sono epocali, sia sul piano appunto di dove si sta spostando il nuovo capitalismo e quindi quali saranno sono e saranno le guerre di oggi e di domani, sia su un piano più strettamente legato a quello che sta diventando l'individuo, ovvero il mondo digitale, ma il mondo anche del cambiamento all'interno della sanità, sta diventando qualcosa per cui non è più diciamo il mondo che deve essere cambiato affinché gli individui possano farne parte, ma sono gli individui che devono essere cambiati per diventare la funzione di un sistema in costruzione. E boh, con questo lascio la parola a Claudio. Scusa, lo metto qua. Ti puoi alzare, forse si sente meglio. Guarda, già ho poca voce, però. Passa al centro. Metto lì. Ok. Io già parlo piano di mio. Allora, buonasera. Mentre parlava Rupert pensavo a due cose, due notizie di questi giorni. Una sul fatto che l'FDA, l'ente di regolatorio per il farmaco americano, di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi giorni, sta decidendo se approvare l'applicazione dei primi chip neurali prodotti da Elon Musk. E l'altra notizia rispetto proprio di questi giorni, a proposito di questa nuova medicina, è il tentativo di costruire un gemello digitale che abbia le nostre stesse caratteristiche genetiche, però digitale, su cui applicare e sperimentare tutta una serie di terapie. Questo chiaramente l'idea è quella di scoprire prima l'effetto che avranno su di noi. Queste sono un po' le prospettive. Un po' io provo a dire due cose, provo a partire dopo questo scenario che sembra futuristico e invece è qua, provo a prendere la cosa molto, da molto indietro. Io mi occupo di medicina cinese, come la maggior parte delle medicine antiche. Nel caso della medicina cinese l'origine del tutto nasce da un caos primordiale da cui scaturisce un'energia sorgente, viene chiamata, e attraverso questa energia, il muoversi di questa energia attraverso due poli, quelli che vengono di solito chiamati yin yang, si creano tutte le forme viventi, si differenziano e si creano tutte le forme viventi. Questo per dire due cose, che tutto è relativo a... che tutto è in relazione, che c'è un'origine comune e anche che ci sono due poli. Ecco, a me quello che colpisce molto di questa fase che stiamo vivendo è proprio come sia esplicito il fatto che noi stiamo, come dire, non c'è una compensazione, non c'è un rientro, non c'è un'uscita solo in una direzione, non c'è un rientro. Per cui tutto quello che sta da una parte... lo spazio, perché lo spazio che diventa globalizzazione rispetto al territorio, la funzione rispetto al corpo, noi stiamo assistendo a un mondo che sta andando tutto in una direzione. Io mi occupo di questo di solito e una delle domande che mi sono fatta è, cioè noi abbiamo parlato tanto, soprattutto nel 2020, delle cause strutturali che hanno portato a questa cosa. Abbiamo parlato di devastazione ambientale, abbiamo parlato di questi laboratori di potenziamento virale, abbiamo parlato di deforestazione, di tante cose. Una delle cause però di cui abbiamo parlato poco e che secondo me sarebbe necessario approfondire è come è stato possibile che questa cosa sia accaduta sul piano sociale. Cioè, come è stato possibile non solo la nascita del virus, ma come è stato possibile creare questa situazione a livello sociale. E c'erano tutte le condizioni affinché ciò accadesse, cioè questa non è una situazione che è uscita dal nulla, proprio a livello di salute generale. Per decenni, non voglio, però volevo buttare di questo spunto, credo che il sistema nervoso di tutti quanti noi era già fortemente alterato, perché sovraesposto a tutta una serie di stimoli ambientali, dove per ambientale intendo tutto quello, dalle relazioni col tutto, animato, animato, inanimato, eccetera, sociali, politiche e quant'altro. E quindi quando è emersa questa situazione del Covid, la paura, che poi è stata trasformata in terrore per essere cavalcata per produrre gli effetti politici che stiamo vivendo, e sono solo una fase, ha lavorato a vari livelli. Quindi semplicemente quello che voglio dire è che il clima di sospensione che si è venuto a creare, legato alla paura, legato a qualcosa di ignoto, eccetera, ha prodotto sia effetti di rimozione da un lato, che hanno fatto sì che ci si bloccasse. La paralisi è stata non solo il lockdown chiuso in casa, la paralisi è stata proprio anche quella che ha prodotto questa difficoltà a mettere insieme, a elaborare, mettere insieme e collegare quello che stava succedendo. Per cui, se da un lato c'è stato chi è rimasto completamente immobile o ha semplicemente risposto agli ordini che venivano impartiti, c'è stato anche chi si è rifugiato, per esempio, nelle condizioni che gli erano più note, in quelle dinamiche che gli erano note, rimanendo bloccato in un passato. Cioè la situazione del presente, del contingente, è quella che facciamo più fatica un po' tutti a trovare, collegando quello che è l'esperienza, il passato, ad una visione futura, e cominciando quindi magari a muoverci. All'interno di questa situazione qua, quando ho visto che finito il primo lockdown, io mi aspettavo, per esempio, che la prima cosa che sarebbe successa è che ci sarebbe stato un incontro fra la gente e la medicina del territorio. Sarebbe stata la cosa più sensata, più logica, no? La gente e la medicina del territorio. Tra la gente, la popolazione e i suoi medici, invece di avere delle direttive sempre dall'alto, dal CTS piuttosto che dall'Istituto Superiore di Sanità, avere un incontro concreto, fisico, con i propri medici, sentirsi raccontare quello che davvero era successo e quant'altro. Questa cosa, lo sappiamo tutti, non è accaduta, cioè è stata mantenuta questa distanza. In compenso, poi verso l'autunno, oltre ai banchi a rotelle, si è cominciato a parlare di questi vaccini che erano in arrivo, e si è cominciato a parlare appunto di questi fondi che sarebbero arrivati dall'Europa, e di questo, per quanto riguarda l'Italia, di quello che poi ha preso il nome appunto di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è il testo programmatico attraverso cui appunto l'Italia ha avuto accesso a un tot di fondi per la ripresa e per la resilienza, per l'appunto. Allora, me ne sono interessata sempre un semplice motivo, che è composto di 6 missioni e la sesta si chiama, è la missione salute, per cui pensavo parlasse di salute, mentre non parla di salute, quindi me lo sono andata a guardare unicamente per questo motivo. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa, il PNRR, chiamiamolo così, è appunto il testo che permette di accedere a quello che viene chiamato Next Generation EU, è questo fondo europeo che consta in 750 miliardi complessivi, suddivisi fra i vari stati in maniera differente, e per accedere al quale gli stati hanno dovuto comunque sottostare a 2 criteri. Uno era un 20% minimo di fondi destinati alla digitalizzazione, e l'altro era circa un 30% destinati a quella che viene definita la transizione ecologica. E l'Italia è fra tutti i paesi quella che ha avuto più, uno stanziamento maggiore, la prima stesura portava 190 e rotti milioni, poi sono miliardi, scusate, poi sono diventati di più, Va detto che di questi solo meno di 70 miliardi sono a fondo perduto, gli altri ricadranno appunto sulle teste dei lavoratori. Altri paesi come la Spagna, per esempio, hanno fatto la scelta di prendere solo i soldi, i fondi a fondo perduto. L'Italia invece li ha presi di più, ma li ha presi a debito sostanzialmente. In realtà io non me lo sono letto tutto, mi sono letta alcune parti di questo testo. I fondi destinati alla digitalizzazione sono molto superiori al 20% previsto. E questa cosa qua mi è risultata abbastanza evidente appunto quando ho guardato i fondi destinati a quella che loro definiscono salute. Allora, fondamentalmente, non ci vedo. Vi do un'idea breve di come sono ripartiti questi soldi, se li trovo. Intanto, di tutti questi soldi, a fronte del fatto che tutta questa situazione è stata generata da una situazione sanitaria, da un'emergenza sanitaria, i soldi destinati alla missione salute sono 15 miliardi complessivi. Di questi 15 miliardi, allora, sono suddivisi per due categorie di fondi, comunque fondamentalmente vengono destinati 2 miliardi per le case della comunità e la presa in carico della persona, 4 miliardi per casa come primo luogo di cura e questo è telemedicina, 1 miliardo per il rafforzamento dell'assistenza intermedia, poi vediamo cos'è, 7 miliardi e mezzo per l'aggiornamento tecnologico e digitale e sostanzialmente, vabbè, non voglio farmi l'elenco, il fulcro di questa nuova, di questo nuovo progetto della sanità è una cosa che si chiama appunto la casa della comunità. Parlavano di questa cosa già all'inizio del 2021, allora era stato definito l'ufficio unico del malato. Cambia il nome, è un po' più carino, casa della comunità, dà più un senso d'appartenenza, ma l'idea è quella di una struttura aperta, in realtà dalle 8 alle 20, ma potrebbe diventare anche una struttura aperta a ciclo continuo, all'interno della quale ci saranno i medici di medicina generale, adesso si chiamano sempre più così, non più medici di famiglia, non più medici di fiducia, sono i medici di medicina generale, altri professionisti, i pediatri e sostanzialmente saranno aperti e saranno dislocati, ne verranno costruite 1288, questo vuol dire in media una ogni 50.000 abitanti. Già qui la prossimità diventa un concetto strano, perché all'interno di una città grande si tratta di rioni. Nelle valli, per esempio, o nelle regioni con una densità, nei luoghi, nei territori con una densità abitativa differente, questo vuol dire ancora meno prossimità, cioè fare chilometri, magari ore di viaggio per raggiungere una di queste strutture. Ma il fulcro di questa cosa che cos'è? È il fatto che la presenza dei medici di base all'interno di queste strutture. Questo vuol dire, per essere aperte dalle 8 alle 20 ed essere la reperibilità, vuol dire che gradualmente la figura del medico di riferimento verrà completamente smantellata, cioè la relazione con il medico, e noi verremo seguiti da dei medici turnisti che di volta in volta si occuperanno non della nostra salute, ma semplicemente, unicamente del sintomo che in quel momento noi porteremo in questione. Affinché questo sia possibile sono necessarie due cose. Da un lato è necessaria la costruzione, o meglio, non la costruzione perché la costruzione c'era già, ma il potenziamento e il fatto di rendere efficiente quello che viene chiamato fascicolo sanitario elettronico, che è il fascicolo sanitario elettronico è stato introdotto nel 2012 ed è apparentemente anche una cosa utile, nel senso che è un fascicolo all'interno del quale vengono raccolti tutti i nostri dati sanitari. Anzi, diciamo che quello che viene chiesto è quello anche di implementare noi stessi, cioè inserendo anche tutta una serie di dati e di visite che facciamo che non sono reperibili direttamente dal sistema sanitario. Perché? Perché un medico che non ci conosce avrà accesso alla nostra storia attraverso i nostri dati, cioè sarà il flusso di dati a dire chi siamo fondamentalmente. Non ci sarà più una relazione diretta con un medico, un paziente che si guardano in faccia, ma semplicemente ci sarà un medico turnista che si occuperà di quella cosa sulla base di un flusso di dati. Vorrei dire due cose. Allora, una è il fatto che questo PNRR prevede l'utilizzo di una cosa che si chiama telemedicina ed era prevista per il 2026 per il 10% della popolazione sopra i 65 anni. In realtà questa cosa è stata sdoganata come misura emergenziale durante la prima fase della pandemia e come unica modalità di contatto con i pazienti a casa e purtroppo quello che è già accaduto, cioè questo non riguarda i progetti del futuro ma è già presente, la telemedicina riguarda, ormai è diventata una modalità operativa, cioè il medico si vedrà attraverso uno schermo. Sembra una cosa futuristica, io vi parlo del Trentino perché lì vivo e lì ho più sotto controllo la situazione, ci sono interi reparti, parlo di cardiologia, parlo di reumatologia, di pediatria, di diabetologia, che adesso propongono come tecnica innovativa di approccio alla cura la telemedicina, cioè la relazione, anche questa relazione, non solo quella con l'ambiente, anche la relazione con il medico è una cosa che deve essere assolutamente rimossa. Il personale, il concreto è una dimensione che è pericolosa probabilmente, per cui la stanno bandendo. Allora, all'interno di questo volevo dire due cose anche collegandomi a quello che diceva Rupert sulle terapie digitali, che in realtà non sono una novità assoluta, nel senso che le prime sono state applicate già nel 2009, ma adesso anche questa è una nuova prassi, un nuovo approccio alla cura e al concetto di salute. O meno, vorrei darvi una definizione di terapie digitali. La definizione, allora, le terapie digitali sono quelle tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi software di alta qualità. Questi programmi hanno lo scopo di prevenire, gestire o trattare un ampio spettro di condizioni fisiche, mentali e comportamentali e vanno trattati come dei veri e propri, interpretati come veri e propri interventi curativi. Possono assumere la forma di applicazioni o app, videogiochi, siti web o dispositivi indossabili. Le terapie digitali svolgono la loro funzione terapeutica andando a correggere comportamenti come scarsa partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo rapporto con i compagni, ma anche assoluta carenza di spirito critico, definiti disfunzionali. Quindi sono delle applicazioni, c'è un funzionamento che non viene considerato funzionale per il sistema e quindi queste saranno le nuove terapie a cui stiamo andando contro. Vorrei anche dire una cosa, scusate, io vado un po' così. Chiaramente sia la telemedicina che le terapie digitali prevedono che le persone siano munite, tra l'altro, siano dotate di una telecamera, siano dotate di tutta una serie di attrezzature, prima cosa che non è una cosa del tutto scontata, ma soprattutto quello che a me preoccupa è proprio l'approccio, cioè chiunque di noi ha avuto a che fare con dei medici, lo sguardo, la diagnosi di un medico avviene attraverso numerosi strumenti, non è la lettura di dati, è la capacità di osservare il paziente in tutti i suoi aspetti, anche annusarlo se serve. Questa dimensione a nasarlo, a toccarlo. Una volta il medico curava guardando la lingua e toccando i polsi e la pancia e l'addome. Questi erano gli strumenti di diagnosi che aveva e la specie umana è sopravvissuta. Ecco, quello che volevo sottolineare appunto è che il tipo di medicina a cui noi stiamo andando incontro è una... non stiamo andando incontro, ci siamo già dentro, è tutt'altro. Quando dico che ci siamo già dentro, volevo così portare alcuni esempi oltre a questo della telemedicina, volevo anche dire un'altra cosetta rispetto a questo. In Trentino, per esempio, la piattaforma di accesso, alcuni servizi sono da adesso, da un paio di mesi, sono come dire, si può accedere a tutti i servizi solo attraverso appunto questa piattaforma, e per accedere a questa piattaforma bisogna avere lo SPID, per esempio, e poi sarà la carta d'identità digitale. Cioè dico queste cose per vedere come tutti questi piani sono correlati fra di loro. Ecco, dico ancora due cose, poi mi fermo. La questione allora, la maggior parte dei fondi vengono utilizzati per digitalizzare il sistema sanitario, perché senza la digitalizzazione, cioè senza che questi fondi vengano utilizzati per la costruzione del fascicolo sanitario elettronico, tutto questo piano, tutto questo progetto non può essere messo in atto. C'è tutto quello che ha a che fare con la relazione deve essere rimosso, quindi la relazione con i pazienti e da parte dei medici, che saranno sempre più distanti. Un'altra caratteristica di questo piano di quello che è previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza è la costruzione di questi ospedali, per esempio, della comunità. Anche qui una gran bella parola. In realtà saranno delle microstrutture a gestione prevalentemente infermieristica, cioè il ruolo del medico di vicinanza, di prossimità, viene completamente cancellato. In tutto questo è abbastanza assordante il silenzio da parte dei medici, della medicina in generale, su cui bisognerebbe anche riflettere. Io credo che, proprio perché credo che questa sia, cioè l'Unione Europea ha stanziato altri 6 miliardi per le prossime pandemie, che sicuramente arriveranno da qui al 2026. Quindi le questioni sanitarie saranno sempre più impellenti e con queste cose ci troveremo a confrontarci parecchio. Dico un'ultima cosa. Veramente un silenzio da parte dei medici. I medici, e vorrei anche precisare una cosa, per me la medicina per me è un ideale fondamentalmente. La medicina ideale comprende quello che noi chiamiamo salute e quello che noi chiamiamo sanità. Per sanità possiamo intendere tutti quei servizi che ci consentono di guarire da delle patologie, da delle malattie. Per salute, il concetto di salute è stato tanto discusso, a me piace riassumerlo però come quella condizione in cui io posso vivere, ogni individuo può vivere appieno tutte quelle che sono le sue potenzialità a livello psichico, a livello emozionale e a livello fisico. Ecco, la medicina dovrebbe essere insieme tutte queste robe qua. In questi giorni alcune firme sindacali hanno firmato il primo accordo per il rinnovo del contratto dei medici di medicina generale, che sono convenzionati a differenza dei sanitari. E nota bene, lo stanno firmando adesso, è un accordo che riguarda il periodo 2016-2018, non lo stanno firmando tutti. Però perché è importante questo passaggio? Perché apre proprio le porte a quello che è l'attuale PNRR, quello che sta succedendo. Ovvero, che cosa decide? Decide che il medico di medicina generale deve fare fino a un massimo di 20 ore nel suo ambulatorio e poi fare un tot di ore variabili all'interno dei distretti. E notate bene, 2016-2018 parla già delle case della comunità che non esistono. Il 70% della retribuzione del medico è su base capitaria, cioè dipende dal numero di pazienti seguiti. il 30% è in base ai risultati raggiunti. Ora io mi chiedo quali sono i risultati che un medico di medicina generale deve raggiungere, se non quelli di curare i suoi pazienti. Queste sono delle riflessioni che dobbiamo cominciare a fare, cioè questo passaggio da un lato verso questo tipo di sanità. In questo periodo è stato detto che non c'è una carenza della medicina del territorio, non ci sono carenze di medici, non andava aumentato il numero dei medici, perché in realtà non è quello il problema. Diverse regioni, allora intanto attualmente non so quanti siano, ma c'era uno studio che appunto era apparso ad ottobre dell'anno scorso, che parlava, considerando solo 8 regioni, di oltre 1,5 milioni di italiani che non avevano un medico di riferimento, ma non mancano medici. Allora che cosa si è fatto? In alcune regioni, tra cui il Veneto ma anche il Trentino, dove pur avendo una situazione per alcuni aspetti anche a livello di servizi sicuramente migliore di altre zone, quello che si è fatto è stato incrementare il numero di pazienti pro capite. Per cui adesso la soglia era fissata a 1.500 pazienti, adesso la soglia è di 1.800 pazienti. Io credo che quello che sta accadendo, tutti questi ritardi, queste difficoltà di accesso anche ai servizi, sono causate anche, da un parte, da delle carenze della medicina del territorio, ma dall'altra parte, del fatto che proprio non ci sono i medici, dall'altra parte perché stanno cambiando proprio le piattaforme di riferimento. Rispetto alle piattaforme, volevo dire un'ultima cosa, poi veramente mi taccio. C'è una piattaforma che è a disposizione già di 1 migliaio di medici di medicina generale, e questa piattaforma aiuta il medico nella selezione sia nella diagnosi che nella scelta del piano terapeutico. Dietro, per esempio, questo OpenEd, per esempio, dentro c'è, oltre a IBM, c'è Novartis. Novartis è la seconda casa farmaceutica dopo Pfizer per reddito e una delle 20 multinazionali più grandi al mondo. In cambio, che cosa hanno? In cambio hanno, c'è un aspetto di, ovviamente legato al profitto, ma il profitto è basato ed è fondato soprattutto sui dati e sulla direzione da dare anche alle scelte impartite ai medici. Ecco, io poi non voglio, aprire un dibattito. Boh. Vorrei dire una cosa brevissima. La pericolosità di tutto questo sistema che si sta mettendo in piedi, anzi che da molto si sta mettendo in piedi, è anche legata al fatto che queste informazioni sulle singole persone, sullo stato di salute, su tutte le malattie che hanno avuto in precedenza, eccetera, alla fine questi dati, una volta centralizzati, possono essere venduti anche. Per esempio, ci stanno assicurazioni sanitarie che pagano sicuramente molto per avere informazioni su chi assicurare e a quanto assicurare. Oppure datori di lavoro che, sapendo che magari una donna è molto fertile, ok, o che ha delle problematiche di qualche tipo, non assumono quella persona e ne assumono un'altra. Forse sanno che un paziente magari è una persona che quando gli si viene determinate cose reagisce, allora quello lì non viene assunto, ok? Queste cose qua. L'altra cosa che volevo dire, brevissima, è che questo fatto del remotizzare i medici e svuotare la professione medica di quello che è la medicina, cioè fare in modo che vengano guidati addirittura nella scelta dei piani terapeutici dalle case farmaceutiche, questo è perché prima le case farmaceutiche mandavano gli informatori farmaceutici presso i medici dicendo cerca di vendere questi medicinali, eccetera, eccetera. Adesso non c'è più questo problema, perché è direttamente la casa farmaceutica che ti dice cosa devi prescrivere, questa cosa qua. Il passaggio successivo sarà, e questo comunque è già iniziato, che i medici spariranno, nel senso che l'intelligenza artificiale, basandosi sui vari sintomi, dirà, chiaramente pilotata anche dalle case farmaceutiche, dirà devi fare questo, devi fare quest'altro, eccetera, eccetera. Chiuso. Da questo punto di vista qua, è proprio di questi giorni anche la notizia che sostanzialmente l'intelligenza artificiale è più efficace, più rapida nel riconoscimento, attraverso un algoritmo, nel riconoscimento delle patologie, dei disturbi d'ansia e d'ansia e della depressione, cioè non è una condizione umana, sono delle dinamiche, diciamo, delle situazioni valutabili in base esclusivamente a dei dati. Ecco, questo è... Vabbè. Che vanno contestate perché diminuisce la produttività. No, perché tu mi scherzi. Segno gli interventi, chi vuole intervenire. Scusa. Magari qual è la situazione in Cina? Questa è una domanda che mi sono fatta. Io mi occupo di medicina cinese, che è una roba antica. Sì, io sì, francamente. Ma quale rapporto sta con. No. Posso su questo volevo prendere, diciamo, alcune argomentazioni al base per. Ok. Allora, nella medicina tradizionale cinese, ovviamente nella medicina taoista, i medici venivano retribuiti maggiormente per il minor numero di pazienti che avevano, appunto perché di malati e quindi di pazienti. E nella medicina taoista tradizionale i medici appunto venivano retribuiti maggiormente per il numero minore di pazienti che avevano rispetto. Esatto. La voce oppure non si sente. Esattamente. Beh sì, però magari si poteva organizzare con un microfono per questo. Io posso anche alzare la voce più di così sicuramente. No, dicevo semplicemente, il discorso sarebbe molto, molto vasto e il testo, diciamo, su questo offre, il testo di presentazione da cui è partita questo incontro offre sicuramente una serie di dati che evidenziano in modo analitico quello che è il PNR e gli strumenti per cui una digitalizzazione, il processo di digitalizzazione in corso, che ovviamente non è in corso dalla pandemia e da questo, è in corso da 30 anni in quest'ultimo ciclo di ristrutturazione cibernetica e ovviamente da molto prima. In realtà ce ne sarebbero anche altri svariati di esempi, cioè dell'esempio di Neuralink, ovvero dello sviluppo della compagnia di Elon Musk sui chip nella materia, nella corteccia cerebrale dei maiali, era già attivo dal 2017. E per quanto riguarda la digitalizzazione, al di là della via diciamo suggerita nel testo rispetto al 5G, che potrebbe anche essere fuorviante su alcuni aspetti, perché nel processo di digitalizzazione e di storaggio dei dati in realtà il 5G non è così rilevante, questo processo è altamente sostenibile con la rete 3G e con la rete 4G, era già una roba in corso. In realtà il 5G serve di più per l'integrazione dell'internet delle cose e così. Sicuramente è un aspetto nocivo della nostra società e che nessuno auspica, ovviamente questo. Però rischiamo sempre di porci al di fuori di un processo in corso, criticandolo dal di fuori e pensando che fondamentalmente oltre all'analitica, diciamo analisi del processo in corso, non ci sia altro tipo di risposta che fondamentalmente la la critica di questi dispositivi in una chiave di azione diretta verso, verso questi dispositivi, che è sicuramente una via spiegabile. Ma se non comprendiamo che fondamentalmente la partecipazione ai processi cibernetici e quindi la digitalizzazione parte principalmente da noi, e anche le nostre, nel nostro piccolo, le nostre forme di vita e le nostre forme e i nostri sistemi organizzativi sono immanenti a delle connessioni che sono esattamente come quelle della cibernetica, per cui rispondono a dei feedback, a delle intelligibilità interne relazionate da feedback. Non capiamo che fondamentalmente questo è la direzione del sistema capitalista tardo industriale. Per cui è tutto molto condivisibile, diciamo, dal punto di vista analitico. Non si può però prescindere dal discorso rispetto all'organizzazione e come organizzarsi rispetto a questa questione qui. Per quanto riguarda il discorso della Cina che si era fatto prima, volevo citare un passaggio di un articolo, non lo leggerò qui però insomma, di un articolo del collettivo cinese Chuang, che è Social Contagion, contagio sociale, guerra di classi microbiologiche in Cina, che è stato tradotto dai compagni del Pungolo Rosso e che trovate online. E c'è un passaggio rispetto al sistema tradizionale cinese che era in corso, diciamo, fino agli anni 50, il sistema del Danwei, cioè il sistema dei medici di città, che non copriva, diciamo, le aree rurali. Con il grande balzo in avanti, diciamo, del periodo di grande transizione che viene comunemente in Occidente chiamato il periodo di Mao, c'è stata l'istituzione dei cosiddetti medici scalzi. I medici scalzi erano fondamentalmente contadini che avevano in qualche modo ricevuto un'istruzione di base medica per cure mediche e questioni paramediche, e integrando protocolli medici della medicina tradizionale cinese a protocolli medici occidentali dell'epoca, sono riusciti a portare cure capillari in praticamente tutto il sistema, tutto il comparto rurale di un paese che negli anni 50 aveva il prodotto interno lordo più basso dei paesi dell'Africa subsahariana. Portando dal 1950 al 1980 l'aspettativa di vita da 45 a 68 anni, distribuendo le vaccinazioni a livello di massa in quel momento lì. Questo in realtà poi non ha impedito al governo cinese nell'ultimo ciclo dagli anni 90 ad oggi, ma già in corso dalla fine degli anni 80, di smantellare questo sistema. E questo sistema è stato smantellato fino ad una situazione attuale che poi ha portato, secondo la vulgata, diciamo, sia occidentale e che fa molto piacere anche all'elite burocratica del cosiddetto Partito Comunista Cinese, la gestione della pandemia da parte della Cina. Questo, mi dilungo su questo perché so che è stato chiesto da una persona, da un compagno prima. In realtà, leggendo soprattutto questo testo, invito a leggere, è uscito da poco anche il libro, possibilmente presto sarà tradotto anche in italiano, la versione aggiornata del libro di contagio sociale di Wuhan, descrive come in realtà questa efficienza, questa digitalizzazione avanzata dello Stato cinese rispetto alla gestione della crisi non è stata efficiente quanto millantato. Questo fa comodo, questa millantazione, diciamo, di questo mostro cinese, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, della sorveglianza tecnologica, e quale è per gestione appunto delle terre rare, tutto quello che è stato detto prima, è ingigantita sia dal cosiddetto Partito Comunista Cinese che dalle potenze occidentali a modo di spauracchio. Questo ha portato a una situazione dei medici di territoriali, e sul libro c'è un'intervista anche a dei compagni a Wuhan nel rapporto di questo, c'è stato uno smantellamento completo di quelle strutture lì, che ha portato la professione del medico, comunque adesso in Cina è tra le meno pagate al mondo, e dal 2010 al 2015, cioè nel periodo in cui un blog di attivisti, di compagni cinesi era ancora attivo prima di essere stato chiuso dalla censura, hanno riportato un incremento dei casi di attacchi da parte della popolazione ai medici per cosiddette cure mancate. Quindi il sistema è al collasso anche laddove viene dipinto come perfettamente funzionante e modello di gestione da seguire. Se non analizziamo però su questo, mi immagino come spiegare, tu prima hai detto rispetto al Trentino che comunque il sistema di gestione sanitario comunque funziona meglio di molte altre regioni, e questo da questa regione te lo possiamo confermare ampiamente. Per cui mi chiedo, e la lancio come provocazione, non intesa come un attacco ovviamente, ma come invito al dibattito. Come faccio a spiegare nel mio quartiere popolare dove vivo che che l'idea di avere un appuntamento digitale con un medico non sia comunque meglio del fatto che la mia vicina di casa ci mette 3 settimane per contattare un medico e non ha la residenza e non può farlo perché vive in una casa occupata e non può farlo per i figli? Come faccio a spiegare che lo sento, diciamo, sia istintivamente che come intuizione politica, che come ragionamento ontologico e filosofico, che le modificazioni genetiche siano qualcosa di nefasto, che siano una nocività, che la tecnologia dell'mRNA che può intervenire verso malattie rare, degenerazioni e via dicendo, sia nefasta? Come faccio i testi critici, i testi dei compagni, i testi critici sulla digitalizzazione non hanno mai saputo, non siamo ancora riusciti a spiegare perché non ci deve essere questa adesione a questo mondo e perché questo possa effettivamente essere un dato negativo rispetto perché se io avessi la sclerosi multipla e mi venisse detto che questo è, cioè non so come reagirei rispetto al fatto che queste a priori siano, non so. Sì. Aspetta, c'è lui. Tra i testi credo più importanti per comprendere la cosa su cui ci stiamo interrogando, segnalo il testo comparso sul numero 2 di TQ, ormai vecchio di 20 anni, esatti, anzi 21, che si chiama l'ipotesi cibernetica. L'ipotesi cibernetica è un'ipotesi costante di governamentalità, che è costante all'incirca dagli anni 40, quando la teoria cibernetica comincia ad essere applicata soprattutto alle attività missilistiche di puntamento, ma cresce anche sulla base di notevoli apporti teorici da parte di Rudolf Carnap dal punto di vista fisico, un grande scienziato eccetera eccetera, ma più vicino a noi, almeno così come nome, un Gregory Bateson, che è famoso ecologista eccetera eccetera, che però è stato uno dei teorici, cioè ha formulato una teoria cibernetica dell'io, è sostanzialmente un tipo di intervento terapeutico psichiatrico, psicologico, ma più psichiatrico che psicologico, che è appunto quello della cosiddetta scuola di Palo Alto, che è una scuola nella quale il problema, mettiamo, della cura di un caso di schizofrenia, per esempio, è quello di curare la famiglia schizofrenogenica che ha delle caratteristiche tipiche che allarmano gli assistenti sociali, definiscono, sono tecniche che vengono elaborate in California negli anni 40-50, ma che procedono poi con la digitalizzazione che non è l'ipotesi cibernetica. La digitalizzazione è una tecnologia che l'ipotesi cibernetica adotta come tecnologia di base, ma non l'unica. Un'altra, per esempio, sono le nanotecnologie attualmente. Allora, che cos'è l'ipotesi cibernetica? Per comprenderlo bisogna capire che la parola cyber è la stessa parola di governo, quindi è di un'idea del governo che deriva dal guidare una nave sostanzialmente, no? Quindi è un lavoro continuo di registrazione di retroazioni nel mezzo in cui una certa azione si svolge, registrare le retroazioni e ritoccare il percorso. Insomma, avete presente quando nessuno magari di voi è stato al timone, però sostanzialmente è questa idea qua. Ora, il modo in cui questa campagna vaccinale è stata sviluppata è esattamente questo. Ma facciamo un esempio un po' indietro, tanto per dire che cosa può voler dire l'ipotesi cibernetica. È il quantitative easing, quello di Draghi, è stato una delle grandi operazioni di comando cibernetico, che consiste nel fatto che io metto degli input enormi in circolazione, si parla di miliardi di euro, come sapete, in quantità crescenti, e aspetto i dati, i feedback di questa azione. Abbasso, il credito, abbasso il tasso di credito sostanzialmente delle banche, lo porto addirittura a un tasso negativo in certi casi, non in Europa ma negli Stati Uniti sicuramente, cioè ti danno dei soldi per prenderti dei soldi, almeno sulla carta, e poi ristabiliscono un piano di rientri che rientra sulle popolazioni. E qui entriamo nel gioco. Il gioco è quello di azioni a monte di governo governamentali, nelle quali l'esecuzione poi dei feedback e delle azioni che devono corrispondere a questo comando che viene espresso attraverso dei messaggini del cazzo, arrivano e sono coprodotti dalla popolazione. Perché l'oggetto della teoria cibernetica è il controllo delle popolazioni. Noi non siamo individui, siamo parte di una popolazione, veniamo marchiati, parrebbe, con questo vaccino, se lo assumiamo, perché pare che un buon 50% delle sostanze che vengono iniettate con questo vaccino, che come sappiamo non è un vaccino, ma è inutile che ci dilunghiamo su questo, si disperde all'interno del corpo, all'interno dell'addome, quindi dove sono contenuti, come sapete, tutti gli organi, in forma di nanoparticelle che non possono essere espulse perché sono talmente nane che il sistema escretore umano non le raccatta, e che parrebbe, alcune sono fatte di materiali che potrebbero anche rispondere a degli impulsi di tipo, non è detto che stiano facendo tutto questo tutto in una volta, perché ciò che ci viene in aiuto rispetto alla pretesa totalitaria dell'ipotesi cibernetica, quindi di un comando che si esercita sulle popolazioni, individuando poi i singoli, gli individui, le piccole le singolarità che non rispondono al comando, e a questo punto sono più facilmente individuabili, più facilmente controllabili, con mezzi che non sono più quelli, dolci del comando cibernetico, ma sono quelli soliti della disciplina e del disciplinamento. Questa dimensione è quella, secondo me, nella quale leggere la pretesa al governo, perché ripeto, in aiuto ci viene il fatto che comunque c'è un, insieme a questa immensa sofisticazione tecnologica, c'è un bello zoccolo di cialtroneria, di incapacità di fondo, di disorganizzazione, che deriva dal fatto che poi il sistema statuale, il sistema del controllo, il sistema poliziesco non sono poi così organizzati come nelle loro pretese, per cui ogni operazione in grande stile spesso ha delle falle, ma alcuni teorici ritengono che è tutta l'ipotesi cibernetica che è aperta alle falle, perché non è aperta alle falle perché come dire, gli elementi strutturanti dei sistemi complessi non possono essere letti semplicemente attraverso queste operazioni di immissione di input e registrazioni di feedback. Ci sono delle cose che necessariamente sfuggono. Il testo di cui parlavo, l'ipotesi cibernetica, conclude, diciamo, polemizzando con forme di movimento allora molto in voga come le TAS, teorizzando delle zone di opacità e addirittura delle zone di opacità offensiva, cioè delle dimensioni, delle condotte, dei modi di abitare, se vogliamo, che sostanzialmente si rendano opache rispetto a questo sguardo allo sguardo dello Stato, o per meglio dire allo sguardo dello Stato nella sua come dire, nella sua costituzione cibernetica, che oggi viene sormontata dal 5G, eccetera, eccetera. Però non bisogna confondere le cose. Il 5G è una tecnologia. L'ipotesi cibernetica non è un'ipotesi, innanzitutto è pur sempre un'ipotesi, è in continua sperimentazione e comunque non rappresenta la totalità degli interessi, diciamo, delle classi dominanti, che per fortuna sono anche frammentate al loro interno e comunque di questi sistemi. Quindi l'impressione di totalità, la finisco, l'impressione di totalità che queste tecniche, tecnologie di controllo sociale esprimono è molto di più parte della loro, per così dire, pubblicità, del loro modo di piazzare, di fornire un campo di visibilità, che una realtà. E quindi in qualche modo non dobbiamo lasciarci allucinare dall'idea di un comando totalitario che si sia già installato e che abbia in mano tutti i suoi strumenti. È una costruzione molto più fragile di quello che immaginiamo e di quello che si pensa, e ogni giorno, se vogliamo, proprio in questa campagna vaccinale, nel modo in cui fanno lavorare i cosi di gli algoritmi per cui decidono che quella zona è gialla invece sia sulla base di dati assolutamente astrusi che loro stessi hanno infilato nella macchina, che c'è qualcosa di veramente ridicolo e diciamo ma pure ubuesco, cioè ridicolo fino all'impossibilità di essere smentito. Ci sono argomentazioni pro vaccini che sono talmente assurde che uno dice vabbè, ma è inutile tentare di ribattere sul piano logico. Grazie. Concetta. No, molto brevemente, anche molto brevemente, non rispondo, colgo la provocazione di Nicola prima, quindi come faccio io a spiegare al mio vicino di casa, insomma del quartiere popolare, che la digitalizzazione è peggio dell'assenza di sanità o di disservizio? Ovviamente io non ho risposta a questa domanda, però colgo la provocazione dicendo che gli eventi degli ultimi anni, ma con una forte accelerazione degli ultimi mesi, in Italia quantomeno, ci offrono, per paradosso, ci danno una mano. Vero, la digitalizzazione non è un fatto che nasce ora, è un fatto che è stato preparato nel tempo, ma gli ultimi eventi, quindi questa imposizione grottescamente, apertamente dittatoriale, insomma, di questo Green Pass, ci dà una possibilità che io credo sia unica e dobbiamo giocarcela in tutto e per tutto. Siamo passati, uso il plurale insomma per descrivere in generale una condizione sociale insomma in questo paese, siamo passati dallo spaesamento dato dalla pandemia, dalla possibile contagiosità, dalla possibile pericolosità che ha molto spaesato, a una certezza che si fa sempre più certezza. Sulla base di questa paura che è stata instillata socialmente, si sta concretizzando un sistema di controllo che va molto al di là di quella che loro hanno chiamato emergenza. A me sembra, non vorrei essere eccessivamente ottimista, che questa categoria dell'emergenza, diciamo nella percezione comune, si stia superando. Si ha sempre di più l'idea che quella che è emergenza diventa un fatto stabile. Quindi, poi ovviamente la palla di cristallo non c'è, non sappiamo quale sarà la prossima emergenza, possiamo anche fare delle previsioni. Comunque la percezione comune è che questo stato di cose, anche a livello di prassi del legiferare, va al di là del, cioè si sta stabilendo insomma un modo emergenziale stabile, quindi la negazione stessa dell'emergenza come momento di passaggio. Questo è un momento molto importante per noi, cioè io sinceramente lo vivo anche con una certa emozionalità, è un momento storico del tutto originale, imprevisto, che ci siamo trovati fra le mani. Probabilmente le nostre mani sono troppo piccole, i nostri mezzi sono insufficienti a affrontarlo, però lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare con un taglio politico netto, quindi assolutamente lottare contro il Green Pass, sia da un punto di vista, cioè proprio di lotta frontale, rifiutarsi di utilizzarlo, ovviamente non do certamente indicazioni, sia da un punto di vista diciamo più, non voglio dire laterale, ma comunque ecco, non così direttamente frontale, quindi aumentare le possibilità della prossimità, della vicinanza. Io penso come tutti, e chiudo qui, ci siamo resi conto in questi mesi che una grande sofferenza sociale è stata determinata dalla sottrazione della prossimità, bambini chiusi in casa davanti a uno schermo, anziani reclusi, persone che non potevano più toccarsi, insomma avere vicinanza. Quindi io credo che nonostante l'imbrutimento che questa società, che vediamo insomma nella società, ci sia moltissimo bisogno di prossimità, moltissimo bisogno di umanità. Quindi incrementare questa prossimità, lottare contro la digitalizzazione. Il Green Pass, proprio come dispositivo e materiale, ci dà questa possibilità, ecco perché ho detto ci viene in aiuto. Perché è qualcosa di materiale, non è, cioè non stiamo parlando di scenari futuribili, ma sì, ma chissà quando si realizzano, sono già qui. Quindi quello che tocca, credo, a noi in modo esiziale, e di lottare contro questo Green Pass, contro questo nuovo dispositivo digitale che ci stanno imponendo. E credo anche che quella parte di antagonismo politico, diciamo così, che non si rende conto o non vuole rendersi conto e si gira dall'altra parte in questo momento, per quanto mi riguarda il fuori, cioè non sta cogliendo uno snodo fondamentale, una cesura fondamentale, non sarà più come prima da questo momento in poi. Allora, buonasera a tutte e tutti, e grazie alle relatrici e ai relatori per questa ottima presentazione. Io pure vorrei però ripartire, se possibile, dallo spunto, la provocazione, non lo so, un'interessante comunque questione posta dal compagno, perché penso che si debba rispondere a quelle persone non si possa eludere la risposta. E a me è venuto in mente, anche sentendo alcuni interventi, la vecchia diatriba, no? Luddismo, la dico in termini rapidi perché sennò famo notte, luddismo o marxismo, cioè io preferisco avere questo microfono per parlarvi, perché sennò mi toccava strillare, che posso pure farlo, però sinceramente me lo eviterei. Io preferisco avere questo microfono, quindi il problema forse non è il microfono, è le cazzate che posso dire al microfono, quello magari è il problema. Chi controlla il microfono? Chi dà i tempi? Chi decide, no? Che, ah sì, ti sei segnato, però non mi piace, te metto in fondo, no? Certo, esatto, no? Andiamo a vedere il contesto sociale, grazie, il contesto sociale di questo strumento. Perché sì, è vero, le macchine, la digitalizzazione faranno un sacco di danni, come le macchine dell'Ottocento studiate da Marx, e lui lo dice benissimo, fa vedere benissimo i danni alla classe operaia dell'introduzione delle macchine, come nessun altro l'ha fatto vedere. Però ti dice anche, attenzione, non è la macchina in sé, lo strumento in sé tecnico, è l'utilizzo. Poi è chiaro, siamo andati avanti, cioè non ci possiamo fermare all'Ottocento, no? E mi viene in mente Marcello Cini, e lui ci dice anche, però attenzione, la teoria scientifica dominante non può essere vista al di fuori dei rapporti sociali, quindi dove andiamo, non è una questione neutra, la tecnologia non è neutrale, questo ce lo dice chiaramente. E quindi che vuol dire? Perché dico questo? Vi faccio un esempio pratico. Mia moglie è medico anestesista, e fa, tra le altre cose adesso, terapie domiciliari, Covid, aiuta le persone malate della Covid a ritirarsi. Come lo fa? Per telefono. Non avendo niente di meglio, utilizza il telefono e utilizza WhatsApp. Non può fare altro perché la chiamano da tutta Italia. Quindi che fa? Utilizza. Se avesse uno strumento migliore, oggi si chiamano app, sarebbe più contenta, perché o aiuterebbe più gente o si sbatterebbe di meno. Però comunque utilizza lo strumento che ha. Manca la prossimità? Sì, certo che manca. Sarebbe un valore aggiunto per usare questa, che poi in realtà è una parolaccia, però la usiamo perché siamo abituati a usarla, la prossimità? Sì, certo, è vero. Però per tornare alla provocazione del compagno, quelli, se no, l'alternativa è tachipirina e vigilattesa, e con tachipirina e vigilattesa si hanno maggiori possibilità di finire in ospedale, di finire in terapia intensiva, e se non hai delle particolarità di rimanerci sotto. Quindi ora è chiaro, io il discorso che facevate lo capisco perfettamente, sono anche d'accordo su molti aspetti. La direzione e il tipo di cura non lo determina mia moglie, ovviamente, che è una signora nessuna, dottoressa nessuno, e non lo determiniamo neanche noi fin quando stiamo così, con questi rapporti di forza. Quindi è chiaro che il tipo di cura, cosa si cura, perché ovviamente il numero di pazienti, se tu hai la digitalizzazione, può aumentare, e questo sicuramente è l'obiettivo, no? 1.500, 1.800, poi saranno 2.000, è chiaro, questo è ovvio, no? Fa parte del meccanismo capitalistico, la produzione. Ma anche il tipo di cura loro determinano, appunto, Cini, no? Cioè, come si cura, ma proprio in termini che cosa di curo? Perché il diabete, no? Se tu vai a fare la glicemia, prima c'era un valore, la soglia critica. Poi questo valore, piano piano, è stato abbassato, perché così tu, anche se stai bene, mentre 20 anni prima stavi bene con quel valore, oggi con quello stesso valore, no, non stai bene. E chi l'ha deciso? Quali sono gli interessi che decidono perché quel valore della glicemia è critico o no? Chiaramente lo decidono quelli che vengono banalmente chiamati i poteri forti. Quindi questo è, diciamo, il mio contributo che volevo portare, nel senso, stiamo attenti, la tecnologia è il primo problema, è chi la fa, come la fa e perché la fa. Però, punto, noi siamo purtroppo nella condizione di subirla. E quindi anche in questo momento di rifiutarla. Sì, certamente, il Green Pass adesso va rifiutato, senza se e senza ma. Un utilizzo proletario del Green Pass attualmente non è all'ordine del giorno. questo mi pare evidente. Non siamo in condizioni neanche di poterlo immaginare, quindi è ovvio che il Green Pass va preso e buttato al cesso. Poi, ne hai bisogno per lavorare? Ok, in qualche modo ottienilo. Perché io chi sono io per dirti che non lo devi ottenere, no? Cioè, se sei sotto ricatto, va bene, falsificalo, ottienilo in qualche modo, quello che ti pare a te. Però, come principio adesso va rifiutato. Quello rimane, perché comunque non subiamo e basta. Voglio concludere con un ultimo aspetto, poi. Attenzione, quando parli della distanza dei medici, i medici erano teste di cazzo anche il 31 dicembre 2019, non è che la digitalizzazione, io lo dico appunto conoscendoli dall'interno, cioè non è che la digitalizzazione è già intervenuta su una distanza che loro sentono già sociale, perché è una classe diversa, c'è poco da fare. La maggior parte dei medici non sono proletari, non lo sono per estrazione familiare, non lo sono per obiettivi che hanno anche quando hanno un'estrazione proletaria, perché vogliono uscire dalla merda nella quale i proletari stanno oggettivamente e quindi fanno di tutto per tenerti lontano. Questa è così, purtroppo, i medici sono fatti così la maggior parte. E invece tanti infermieri che sono di origine proletaria e spesso ci rimangono pure perché stanno a 1.500-1.600 al mese, un medico di solito parte da 3.000 dopo 5 anni, gli infermieri ci stanno, tanti bravi infermieri che mangiano in testa dopo 20 anni i giovani medici, che nelle sale operatorie un infermiere specializzato dopo 20 anni quando viene il pischelletto neospecialista gliele spiega l'infermiere le cose. È normale, ovviamente, quello è medico e farà il suo corso, però attenzione anche lì, perché io sento, per esempio, seguo molto la Barbara Baranzoni, che lei ce l'ha a morte con gli infermieri. Chiaramente lì c'è una questione di classe, perché anche l'infermiere invece è importante. Prima era quello che puliva i culi, perché l'infermiere nasce così, quello che puliva i culi. Oggi non è più così. Oggi chi pulisce i culi sono magari gli host, no? E quindi questo noi dobbiamo vedere l'evoluzione di queste cose e dobbiamo quindi stare attenti a non riportare involontariamente, so benissimo che non era quella l'intenzione, no? Questo è ovvio. A riportare, però, a far rientrare il classismo dalla finestra quando invece lo dobbiamo cacciare, perché è l'unico modo per salvarci, è cacciare proprio qualunque forma di classismo e finalmente riuscire ad appropriarci delle tecnologie. Grazie. Grazie, Lisa. Vai. No, prendi il microfono, per favore. Ti prego. Due cose, giusto per essere chiara. Intanto, non sono entrata nel merito di questa cosa, ma stanno proprio a livello istituzionale cambiando quello che è il ruolo degli infermieri, quello che è il ruolo dell'OS, e non è un caso questa cosa, perché l'infermiere diventerà la figura, l'unica figura che avrà contatto con i pazienti, di fatto. Quindi allora, questa valorizzazione della figura infermieristica che ha la sua dignità assoluta, che io non tocco, ma che è una figura differente da quella del medico. L'OS diventerà la figura invece, proprio in questo, di un mese fa, il nuovo, sono stati definiti i nuovi compiti dell'OS che saranno molto più simili a quelli che svolge l'infermiere fino ad oggi. Anche questa cosa è funzionale appunto ad un certo, ad un nuovo rapporto tra il medico e la società, e non sarà legato direttamente al paziente. Poi volevo dire una cosa. Adesso rispetto alla medicina cinese, io mi occupo di medicina cinese antica e il ruolo principale del medico era quello di prevenire le malattie, cosa che è completamente diversa da quello che fa il medico cinese oggi o qualsiasi altro medico. Se il medico, appunto io dicevo prima che ho una visione ideale della medicina, per cui il medico dovrebbe essere il primo, occupandosi di salute e di prevenzione, a denunciare chiaramente tutte le situazioni tossiche che si presentano grazie al sistema capitalistico. Questa cosa è evidente che non accade. Io parlavo di un ruolo ideale del medico, che è una roba completamente diversa. Terza cosa, il fatto che in Cina, nonostante l'incitazione, che il sistema di credito sociale non sia, le cose non siano andate bene, secondo me questa cosa, e anche rispetto al discorso delle falle nel sistema, il paradosso di questa situazione è che quelle stesse falle, secondo me, vengono utilizzate per implementare e aumentare ancora il controllo. Cioè un sistema che si autorigenera, questo volevo dire, e di questa cosa prendiamone consapevolezza. Cioè, voglio dire, tra un po', per esempio, la questione del Green Pass, secondo me il Green Pass in sé non esisterà più, perché ci saranno tutta una serie di dati su un documento unico d'identità, per cui la situazione vaccinale, per esempio, sarà direttamente su questo. Non sarà più la vaccinazione Covid a essere messa in evidenza, ma per esempio è già pronto un vaccino trivalente sempre mRNA che riguarderà Covid e anti-influenzale e anti-sincitiale, per cui anche chi non si è mai fatto l'influenza, per esempio, si dovrà fare un vaccino, perché c'è una nuova idea di prevenzione, cioè le persone non si devono ammalare. L'idea è quella di non, cos'è un virus alla fine? I virus esistono, se noi siamo qua che comunichiamo è perché dei virus si hanno sentito di sviluppare tanto tempo fa il lobo anteriore del cervello, d'accordo? Cioè è dalla relazione con l'ambiente che noi ci modifichiamo, cambiamo, viviamo sostanzialmente. L'idea è quella di invece rimuovere ogni idea di relazione. Mi piacerebbe che questa cosa qua, anche quando si parla di prossimità, ci rendessimo conto anche di questo aspetto. La prevenzione vuol dire non avere più contatto, questa è l'idea. È un concetto che in natura non esiste, che è quello dell'immunità, cioè dell'esenzione. L'esenzione vuol dire non vita. Ecco, volevo dire questa cosa qua. Ma ci sei tu? C'è lui che voleva parlare. Sì, ma è sì. No, vai. Cioè, prima di lui, cioè già lui. Vuoi parlare? Volevo intervenire io. Si sente? No, vieni qua. No, ma è lo stesso. Ma vuoi parlare con... Orrido, strumento pallido. Volevo parlare, sempre per rispondere agli interventi precedenti, innanzitutto di come si può reagire in questo periodo. Secondo me, il fatto che viviamo nel passato del futuro, ovvero nel presente, e sappiamo i piani del futuro, ci dà l'occasione per giocare anche noi di anticipo. Innanzitutto, se adesso ci troviamo come al contrario di un film di Carpenter, che senza occhiali noi riusciamo a vedere la realtà, partiamo già con un grande vantaggio rispetto a chi è fra qualche anno, in cui la società sarà completamente interconnessa e avremo dei visori con cui vedremo un altro mondo, in cui vedremo le pubblicità comparire davanti ai nostri occhi, vedremo le palazzine illuminarsi con messaggi che inducono a comprare, a consumare o a comportarsi in un determinato modo. Adesso noi abbiamo l'occasione di fare. Sempre due importantissime domande: dove andare, cosa fare, riguardano ogni tempo. In realtà il tempo è sempre unico, quindi nella prospettiva del futuro si può agire con una strategia anche nel presente. Se noi sappiamo i loro piani futuri, possiamo iniziare a romperli già nel presente. Non dobbiamo però confondere i mezzi con i fini, ovvero qual è il nostro fine? Se il nostro fine è la libertà, quello che ogni essere umano, ogni essere vivente anela, dobbiamo pensare che i mezzi noi dobbiamo possederli. E quali sono i nostri mezzi oggi? Innanzitutto l'illusione. Che cosa vuol dire? Che probabilmente abbiamo la capacità di eludere alcuni tipi di controllo tramite il nostro ingegno e anche o anche la complicità all'interno di un territorio. Abbiamo la possibilità di stringere delle relazioni che possano sopperire alla mancanza anche attuale di condizioni che ci facciano andare avanti, anche nell'ambito medico, trovare dei compagni, delle compagne che abbiano una conoscenza ad esempio della medicina, oppure abbiano la possibilità di poter sopperire a una nostra mancanza che possiamo avere oggi. Ci fanno andare avanti anche nel presente. In più, dove andare e cosa fare riguarda anche il raggiungere l'obiettivo della libertà. La cabina di regia del dominio fa acqua da tutte le parti. I timonieri non hanno una rotta sicura. Nei loro piani sembra che andrà tutto bene. In realtà le materie prime, le materie critiche, come le chiamano nei loro piani, stanno sempre più scarseggiando. La tecnologia non è sostenibile come vogliono farla vedere, non è infinita. Ci sono dei materiali che hanno una limitata portata a livello quantitativo, il coltan, il cobalto, il litio, adesso vengono prelevati in Africa. A breve, probabilmente fra una decina d'anni, verranno riaperte delle miniere anche in Europa. E ci sono. Già oggi, sì. E a breve la loro transizione ecologica interconnetterà anche delle vecchie energie che prima non venivano considerate rinnovabili per quanto riguarda il nucleare e il gas. Quindi i loro piani sembra che siano sostenibili già da adesso, ma non lo sono. Ci devono lavorare bene, devono stringere dei patti economici strategici, devono fare in modo che anche la popolazione stessa sia d'accordo, che ogni singolo individuo obbedisca, credere, obbedire e combattere affinché si raggiunga questo piano. Dipende da noi andarci a prendere la tessera, come 100 anni fa succedeva con la tessera del fascio, per andare ad avere delle agevolazioni, a stare comodi, oppure negare di voler avere il Covid per prendersi il Green Pass, negare il Green Pass nel momento in cui lo si ha e cercare di trovare una via in tutti i margini che ci frastagliano, tra tutti gli scogli che ci si interpongono. Riusciremo a trovare una via, come l'acqua trova la via con le pietre, anche noi riusciremo ad andare avanti volendo. Questo come? Tramite una complicità, tramite delle relazioni, tramite il nostro ingegno, ma soprattutto tramite una forte autodeterminazione e coraggio, il coraggio di andare avanti. Tutte queste analisi non devono demoralizzarci, dobbiamo pensare che ci si pone davanti una grande avventura che dovremmo calcare se vogliamo mantenere il nostro essere umani e non pensare di essere immuni. Quello che loro ci vorrebbero fare credere è che una vita senza malattie è una vita che valga vissuta. Invece una vita che valga vissuta è una vita piena di esperienze, anche negative. Accettare il fatto che ci si possa ammalare è un'esperienza, accettare il fatto di ammalarsi è un'esperienza, accettare anche la morte è un'esperienza. E in questa medicina maledetta assassina che viviamo oggi non c'è niente di ideale. C'è solo la visione che dobbiamo, come non abbiamo scelto di vivere, non abbiamo neanche la scelta di come morire. Dobbiamo morire come vogliono loro, dobbiamo vivere come vogliono loro, ma veramente vogliamo vivere così? Prima si diceva, coraggio è sempre avanti, la morte è nulla più. Adesso forse mi conviene vivere come dicono loro, morire come dicono loro, conviene seguire i loro piani, altrimenti non vado avanti. Beh, forse non è che vado avanti io, vanno avanti loro, i padroni. E io credo che queste occasioni di beccarsi non siano semplicemente la condivisione anche giusta di analisi, ma anche di un umore alto, nell'andare avanti con una determinata autodeterminazione e soprattutto cercare di non pestarsi piede a vicenda. Secondo me i conflitti che ci sono all'interno dei territori, le situazioni di piazza, le situazioni dei cortei, le situazioni fra anche le complicità popolari che riguardano le palazzine o i negozi complici con il fatto di poter accedervi senza il Green Pass, anche l'attacco diretto, anche l'anonimato, tutto questo deve interconnettersi. Non esiste un'unica via. Dobbiamo cercare di andare avanti a nostro modo, a ognuno il suo, con l'unico orizzonte la libertà. Per fare questo dobbiamo stringere delle relazioni, dobbiamo cercare complicità anche con chi pensavamo che prima non c'entrasse niente con noi. Ovviamente chi ha il frangente è l'autorità, chi ha nella mente l'autorità non può essere un complice. Allo stesso tempo, secondo me, sempre più persone si stancheranno di questo tipo di condizione e sempre più persone vedranno che in questa loro scomodità della vita troveranno l'orizzonte della lotta. E questo ci saranno noi, fratelli e sorelle. Quello che vorrei vedere io è che ci si ponga avanti con una progettualità per raggiungere questa libertà, ma anche, soprattutto, cercare di capire quali sono i mezzi oggi e quali vogliamo domani, e come vogliamo essere noi domani e anche come vogliamo comportarci oggi. Altrimenti non riusciamo a raggiungere il fine. Il fine non è il togliere il Green Pass. Eludere il Green Pass può essere un mezzo per avere più libertà, ma non è che togliendo solo il Green Pass allora saremo liberi. Intervieni. Ciao a tutti e a tutti. Io volevo fare in realtà un intervento molto breve, un po' per catalizzare magari la discussione, se ci sono altri, diciamo, anche interventi o idee, appunto, come diceva il compagno, adesso anche più pratiche, no? Capire come organizzarsi. Sono d'accordo molto in abbastanza tutto quello che è stato detto nell'intervento prima di me, onestamente. Trovo molto interessante tutta la parte analitica, quindi capire, no, come si è arrivati a questa situazione qua, sotto tanti punti di vista, quindi cercare di motivare e di comprendere poi le decisioni che vengono prese da chi, insomma, un po' gestisce la parte burocratica e legislativa. Però credo che sia proprio per andare contro, diciamo, quella direzione lì, che secondo me è appunto un altro aspetto molto, molto importante della digitalizzazione, è legata al controllo, ma non è diretta espressione della digitalizzazione come controllo, ma è secondo me molto più legata anche appunto alla disgregazione di vari tessuti sociali, che quindi poi diventa la possibilità, diventa un po' la, diciamo, la negazione della possibilità di focolai di lotta e di resistenza, quindi di fatto una più facile anche repressione, un maggiore controllo nella pratica, no? Che viene poi di fatto come prodotto collaterale al fatto che vengano distrutte in maniera sistematica le relazioni sociali. E questo per me è un grosso problema, perché poi di fatto, appunto, anche per rispondere a Nico, effettivamente, cioè, la tecnologia, nel senso, io sono ricercatore in questo campo qua, nella fisica, per me, nel senso, per tanti anni la tecnologia è stato altro, no? Che ci si mette tanto a realizzare poi cosa vuol dire, insomma, cos'è la scienza, qual è la sua presunta o meno neutralità, però, ecco, secondo me anche la medicina come la scienza vengono di fatto poi immersi in dei contesti sociali e rispondono a delle dinamiche sociali in cui vengono immersi, insomma. Per me è evidente, diciamo, appunto, è tutto collegato, nel senso, anche la volontà di atomizzare, la volontà di rompere i vari legami sociali che possano portare a delle criticità, esiste anche all'interno dell'accademia, esiste all'interno della medicina. E il fatto che appunto i medici che non ci sia stata una presa di posizione, secondo me è figlio chiaramente delle dinamiche del potere, che sono delle dinamiche di ricatto, che spesso prende la forma del ricatto lavorativo, ed è così che poi, diciamo, la direzione della società diventa influente anche su altri percorsi, perché per esempio, per quanto mi riguarda, nel mio ambito, che è la fisica teorica, diciamo, ci sono un sacco di finanziamenti che vengono stanziati, ricercatori e ricercatrici che vogliono lavorare, che vivono al lavoro come comunque un premio che gli viene dato dopo anni e anni di studio finalizzati a quello, poi nella testa di molte persone, ecco, che di fatto la possibilità di avere nuovi finanziamenti, nuove direzioni di ricerca che si aprono in direzioni che sono ben chiare, diciamo, non sono purtroppo spesso dettate dal mero interesse scientifico, sicuramente diminuisce la possibilità di resistenza, diminuisce la possibilità di quello spirito critico che poi in realtà dovrebbe essere un po' la parte fondante di magari qualcuno che vuole appunto approcciarsi al mestiere o al lavoro del ricercatore, e di fatto c'è tutta un assoggettamento, c'è tutto un assecondamento di politiche sotto un ricatto che è quello del lavoro, insomma, esattamente come nella medicina, esattamente come in tanti altri ambienti, ecco. E sicuramente, diciamo, questa volontà di affievolire le lotte, affievolire la resistenza, creando nuove necessità, creando dei livelli che possano intercorrere tra te e chi ti è sopra di te, per darti un po' la sensazione di poter camminare sulle teste di altri, per insomma guadagnarti un altro posto nella società, quindi dimenticarti del cosa ti rende, diciamo, schiavo all'interno della società in cui stai, è sicuramente un po' avviene in molti campi, sicuramente appunto avviene nella scienza, avviene nella medicina, ma per esempio anche, no, c'è tutta la popolazione carceraria nei confronti dei quali magari vengono fatte o vengono prese delle misure che possono diciamo essere dei percepiti o visti come dei benefici nell'immediato, che di fatto poi servono, come nel resto della popolazione, a un po' assoggettare un po' di persone, isolando sempre di più coloro che invece decidono di non stare a queste misure, no? E io penso che appunto sia un po' questa la questione che dobbiamo prendere nelle mani, cioè il fatto di avere chiaro, secondo me, in testa che la direzione delle istituzioni, la direzione dello Stato è quella di comunque sedare, creare divisioni e creare sempre più, diciamo, specchietti per dall'odole, per cercare di togliere l'attenzione a tutte quelle persone che possibilmente potrebbero avere dei problemi nei confronti delle varie misure che stanno prendendo. Quindi chiaramente si lega poi il controllo, si lega poi la necessità di avere un documento a tutto un tot di servizi che uno pensa siano necessari, in maniera da non inculcare un po' e farsi dimenticare che siano delle misure aberranti, insomma, chiaramente coercitive. Qua, diciamo, penso che non dobbiamo star qua a dire perché sono negative le varie misure che sono state prese, secondo me. Quello che è interessante è capire in questo momento di frattura, appunto di frattura e di piena dinamica di frattura del tessuto sociale, come andare contro questa direzione, quindi come organizzarsi per invece questo tessuto sociale ricostruirlo, e di conseguenza si creano tante risposte, no? Perché, visto che anche io sono d'accordo sul fatto che sia un momento abbastanza storico, non so se ha senso definirlo così, però sicuramente di rottura rispetto a un sacco di dinamiche pregresse, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, e quindi ci si trova in dinamiche che probabilmente prima non si avevano mai avute, che vuol dire che non si possono solitamente prendere degli strumenti che ci sono stati dati, riproporli a nostra volta in delle dinamiche già conosciute, in contesti già conosciuti, sperando di portare a casa qualcosa che ci renda, diciamo, soddisfatti, ma è, diciamo, un momento in cui bisogna un attimo trovarsi e capire quali sono le nuove modalità di organizzazione che possiamo tirare su assieme. E questo però implica che dobbiamo anche identificare, diciamo, una platea con cui organizzarsi, no? E questo solitamente è stato anche oggetto di molte critiche, oggetto di tanti ragionamenti, ed è, secondo me, è molto positivo il fatto che abbia stimolato ragionamenti. Secondo me stimola ragionamenti proprio perché tante persone che magari si sono sempre trovate a poter riproporre un tot di dinamiche che a loro erano comode e che pensavano che trovavano come redditizie anche a livello personale, effettivamente questo non è più il caso, perché diciamo c'è una grossa rottura anche nel capire cosa vuol dire stare dietro a questa lotta, che in questo momento è la lotta contro magari il Green Pass, ma che sappiamo bene che in realtà è una lotta in divenire contro un certo tipo, appunto, di deriva autoritaria. Per questo, secondo me, sottolineare la natura, per forza, per natura anti-autoritaria della lotta contro il Green Pass è fondamentale. Però in generale ci viene sbattuto in faccia la necessità di capire con chi organizzarci, no? E e soprattutto in questa dinamica di assoggettamento, in questa dinamica in cui c'è una grandissima diminuzione della, secondo me, di quel poco conflitto, che forse quel conflitto già non esistente che c'era prima, nel momento in cui ci sono delle figure, ci sono delle persone che esprimono per la prima volta magari delle direzioni, dei sentimenti di rottura, magari molto più anti-autoritari, molto più, diciamo, di getto, molto più puri, se vogliamo, di tante altre dinamiche che vengono riproposte tuttora, secondo me, in tanti spazi che si dichiarano antagonisti, in qualche modo bisogna capire appunto che cosa vuol dire per noi organizzarsi, come vogliamo farlo e quali sono le dinamiche che possono effettivamente andare nella direzione di ricostruire un tessuto sociale che, per me, quando si parla di complicità, appunto è fondamentale, insomma. Andrea. Vabbè, provo a parlare anch'io, senza microfono. E, vabbè, intanto la premessa. Io penso che il contributo che hanno dato le compagne e i compagni che sono intervenuti qui da fuori sia da approfondire, perché è piuttosto decisivo rispetto ai passi da compiere in futuro, e questo è un primo problema, cioè il fatto che dobbiamo, secondo me, approcciare il terreno su cui ci pone la sfida dell'avversario, dei poteri a cui ci contrapponiamo, che è esattamente quello della prospettiva del tempo futuro. È un po' inedito rispetto anche ad alcune caratteristiche della nostra critica. 11 anni fa si scendeva in piazza dicendo: non chiediamo nessun futuro, ci riprendiamo il presente. In realtà la posta che viene posta dal potere a livello globale è esattamente quella di una configurazione del futuro. E io penso che per afferrare esattamente l'esperienza che stiamo vivendo da 2 anni a questa parte bisogna in qualche modo chiarificare questo punto. Quello che secondo me è importante nel contributo della compagna e del compagno stasera è esattamente il fatto di sondare archeologicamente le fondazioni di una strategia, di un'intenzione, di centri di potere che configurano un tempo futuro. E dal punto di vista, diciamo, di un'immaginazione sovversiva, questo pone un problema. C'è un vecchio dialogo di Benjamin con Brecht del 1938 a Svedenborg, in cui Brecht parla con Benjamin dell'importanza di trasferire delle opere sovversive sul terreno poetico ai bambini come generazioni future. E Brecht dice: quello che è in gioco in questo, sostanzialmente, dice, è una forza, o meno quanto scrive Benjamin, di quello che dice Brecht, è una forza più profonda della forza selvaggia del nostro nemico. Quando dice il nostro nemico, dice un nemico che ha convocato simultaneamente le forze della reazione e le forze del capitale tecnico-scientifico. Perché questo è stato il totalitarismo nazista. E questo è qualcosa con cui un immaginario della sinistra in Occidente non ha mai fatto i conti fino in fondo. Ossia che la dotazione tecnico-scientifica, l'inclusione della scienza alla tecnica e della tecnica al capitale, ovvero il punto di tendenza dello sviluppo capitalistico, è stata afferrata più di ogni altro da un totalitarismo reazionario, e che questa coniugazione è stata possibile e che è stata irreversibile. Paul Celan diceva, quando cercava di tradire l'esclusione della possibilità di scrivere poesia sull'Olocausto, che la figura dell'Olocausto era un professore tedesco. Il professore tedesco è questa immagine, cioè l'immagine di una tradizione filosofica che consente questa coniugazione tra un pensiero reazionario e una tecnica. Non una tecnica qualsiasi, ma il massimo sviluppo della tecnica, il più alto grado della tecnica. Il totalitarismo reazionario è stato questo totalitarismo. In generale il totalitarismo si differenzia dalla dittatura, e questo è un punto che dobbiamo chiarire nella lotta. Il totalitarismo non è la dittatura. La sottile differenza che è decisiva tra la dittatura e il totalitarismo è una partecipazione organizzata. La dittatura è un processo dall'alto. Il totalitarismo è una mobilitazione. E quello a cui abbiamo assistito noi in questa esperienza biennale è una mobilitazione. Una mobilitazione contro un nemico comune. Qualcosa che si accorda benissimo alla faccia di Ugo Mattei con la retorica del bene comune. Noi dobbiamo rompere questa veste. E questo è difficilissimo, perché la partecipazione è una partecipazione produttiva, come ci è stato ben spiegato. È una partecipazione che consiste e coincide con la partecipazione alla produzione, non a una produzione di beni, ma a una produzione di una forma di vita. Ciò che ha consentito la partecipazione in questi due anni alla gestione della pandemia è l'afferrarsi a questa forma di vita come la sola forma di vita possibile, e questo terreno è esattamente il terreno di investimento di quei poteri. Quando nel testo a partire dal quale sviluppiamo il dibattito è detto che quei poteri investono sulla priorità, sulla supremazia della riproduzione di un sistema, sullo stesso biologico e sull'adattamento del biologico alla riproduzione del sistema, questo è il nodo al quale ci troviamo di fronte. Come si spezza, come si scioglie questo nodo? È difficilissimo dirlo. Ci sono dei mezzi che sono sempre disponibili, che sono sempre dati, quando la contrapposizione diventa duale, cioè da una parte il sistema e dall'altra parte il terreno della libertà su cui esplorare la possibilità di forme di vita, fra la forma di vita come totalità, la forma di vita data come totalità e il possibile delle forme di vita. È evidentemente una dualità. Quando c'è la dualità c'è solo l'attacco e il sabotaggio. Questo non risolve il problema, perché evidentemente noi siamo in una situazione in cui l'attacco e il sabotaggio sono contrapposti alla convocazione di una partecipazione diffusa, di una mobilitazione di massa, di un'adesione di massa. E di questo dobbiamo essere consapevoli. Quando pensiamo la lotta contro il Green Pass come la lotta di coloro che sono escluse ed esclusi dal Green Pass, pensiamo immediatamente nei termini di una minoranza. E il problema che ci si pone di fronte è rovesciare questo paradigma, cioè capire come andare oltre la scadenza del Green Pass. Capire che oggi, proprio oggi, la Commissione europea ha già stabilito che il Green Pass europeo, come dispositivo disponibile ai poteri politici nazionali, è prolungato fino al maggio del 2023, proprio mentre i poteri politici, e lo dicono le stesse fonti di questa blogosfera, Novax e No Green Pass, che ci circonda nella minoranza, stanno dismettendo le prescrizioni, le limitazioni. In Italia, con il passaggio di ieri del governo italiano, che dice dismettiamo alcune limitazioni, alcune prescrizioni per i vaccinati e stabiliamo in maniera definitiva la separazione sociale fra chi ha aderito alla campagna vaccinale e chi è fuori dalla campagna vaccinale, ma liberiamo, come ha detto il Presidente del Consiglio, di più il Paese. Questo avviene però sotto il prolungamento del dispositivo. Allora che cos'è questo dispositivo? È evidentemente un dispositivo non limitato alle sue enunciazioni sanitarie. E questo lo sappiamo benissimo, lo sappiamo da mesi, da quando la stessa Commissione europea ha osservato che è riuscito talmente bene il dispositivo sul piano della sua disposizione digitale che oltre ai dati sanitari c'è stata una liberatoria decisa dalla Commissione europea per immettere dentro quel dispositivo dati non sanitari, e questo avviene già nel momento in cui, come veniva osservato nel documento da cui parte la discussione, questo dispositivo viene interfacciato con l'erario, non col Ministero della Sanità. In questo momento, lo dico per esperienza personale, da mesi, da quando è stato varato il Green Pass, l'obbligo del Green Pass, per una serie di attività vitali, la pubblica amministrazione parla con tre interfacce diverse, digitali. C'è un'interfaccia digitale per consentire il Green Pass, che si riferisce a un'anagrafe vaccinale. C'è un'interfaccia per la vaccinazione, cioè c'è un'interfaccia distinta da questo per potersi vaccinare, per essere autorizzati nei centri vaccinali a svolgere i successivi compiti imposti dalla sequenza delle dosi. Avviene che chi si è contagiato dopo la vaccinazione continua ad avere validato il Green Pass, così come avviene che chi si è vaccinato dopo guarigione, se per caso il medico di famiglia non ha distinto tra le interfacce, cioè l'interfaccia non si è avventurato in questo labirinto digitale e si è confuso, si vaccina nelle prescrizioni delle scadenze imposte, ingiunte dalle leggi nazionali, dai decreti, dalle ordinanze, ma non può registrare questa vaccinazione perché magari il medico di famiglia si è confuso e nel caso in cui sia stato contagiato prima, durante o dopo la vaccinazione, se non ha registrato questo dato, quella vaccinazione non è registrabile ai fini del Green Pass, il che però non impedisce che il Green Pass precedente da guarito che viene dall'altra interfaccia continui a funzionare, oppure che il Green Pass dalla precedente dose continui a funzionare. Questo che cosa ci dice? Che in realtà, come è stato detto nelle introduzioni, nelle relazioni di facilitazione di questa discussione, questa strategia non è innervata sulla protezione della popolazione da un contagio, ma su una intenzione programmata e pianificata rispetto a un compito tecnico-scientifico, a un indirizzo tecnico-scientifico, che è anche qui la risposta al dubbio posto prima, nel senso, il modello cinese come ha funzionato? Ha funzionato forse sulla ricognizione del contagio? Beh, insomma, noi sono 2 anni che balliamo intorno al conflitto dei poteri globali sulla eziologia del contagio. Cioè, se il contagio sia di laboratorio oppure o è insieme, abbia obbedito a una dinamica di spillover, di salto di specie, è l'argomento del confronto, dello scontro geopolitico fra i poteri globali. Non è questione di cospirazionismo o, diciamo, di critica marginale a quello che succede, è proprio quello che dice la CIA, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Pentagono, l'amministrazione presidenziale e quello che dice il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. Ora, che il modello cinese abbia funzionato sulla prevenzione è piuttosto contestabile. Sicuramente ha funzionato su una cosa che è paradigmatica, effettivamente, per come si è conformato quel gran casino che è stato l'orientamento dei poteri occidentali, dei poteri imperiali, diciamo, consolidati, rispetto all'esplosione di questo problema. Ossia un indirizzo di profilassi, quello che veniva applicato rispetto alle epidemie coloniali, il contenimento del danno produttivo di un'epidemia, la funzionalizzazione dell'organismo umano, degli organismi individuali alla ripresa. In questo senso il modello cinese ha funzionato diversamente, ma ha funzionato come modello. Ha delimitato attraverso un lockdown totale che solo un regime totalitario può imporre, il tracciamento del contagio. Quanto, diciamo, alla verità rispetto ai dati del contagio, ovviamente tutto questo, diciamo, parla da solo, no? Cioè, noi siamo di fronte ai 18 casi pronunciati nell'ultimo mese dalle autorità cinesi, dopo che sono state ibernate intere popolazioni urbane. Non affrontando minimamente, escludendo il problema, diciamo, di come sia nata e come si sia diffuso un focolaio esattamente in quel territorio, con quelle caratteristiche, con quella storia, e questo lo lasciamo da parte, ha già scritto Zhuang, appunto, ma anche altri, e ha consentito il mantenimento dei livelli del PIL cinese, diciamo, in un vantaggio relativo rispetto alla flessione complessiva del PIL mondiale. Questo ha funzionato sicuramente da punto di direzione e punto di tensione degli orientamenti alla gestione della pandemia. E infatti ci siamo. Quello che viene raccontato adesso è che il contagio è stato normalizzato, che una media di 400 morti al giorno in Francia, come in Italia, come in Germania, come di più nel Regno Unito, possono essere normalizzati, che i dispositivi non servono e non debbono servire al tracciamento del contagio, perché il contagio, grazie alla campagna vaccinale, è stato dimensionato a una sostenibilità sistemica che consente, a partire dalle decisioni dell'AIFA e dell'EMA, di contrarre lavorativamente i giorni di quarantena e i giorni di isolamento, e di riprendere i ritmi di produzione. Altra cosa è capire che cosa è stato consolidato in questa esperienza rispetto alla migrazione del lavoro su un altro territorio, che è quello del lavoro remoto, del lavoro a distanza, che è stato celebrato da tantissima parte della sinistra come un elemento addirittura di liberazione al lavoro salariato, quando è il contrario, cioè è la totalizzazione dei tempi di produzione dentro i tempi di vita. E noi su questo, secondo me, dovremmo cercare di chiudere, e chiudo anche il mio intervento, una capacità di portare avanti la lotta. Ossia, se di fronte a noi abbiamo le scadenze della formalità del Green Pass sanitario, mentre rimane pendente il Green Pass sanitario e non più solo sanitario europeo, e rimane a disposizione e rimarrà come dispositivo disponibile. Se di fronte a noi c'è la ripresa e la delimitazione del contagio, cioè la normalizzazione dei morti di prima e la normalizzazione del fatto che il sistema sanitario riorientato non sostiene come prima il contagio, ma questo contagio è sostenibile perché la ripresa è avvenuta, noi abbiamo necessità di portare questa lotta oltre quel paradigma della minoranza esclusa dalla vaccinazione, autoesclusa anche per scelta dalla vaccinazione, e portare la lotta esattamente su quella che è la proiezione temporale del PNRR e la proiezione temporale a cui il PNRR a sua volta si riferisce, che è il programma 2050, che è il programma che attiene complessivamente all'orizzonte della scommessa sulle forme di vita, cioè alla scommessa sulla riproduzione e la riproducibilità del sistema nella sua insostenibilità. Perché l'essenziale, qui chiudo sul serio, se lo volessimo vedere, diciamo così, con l'occhio del materialista storico, come diceva qualcuno, di questi due anni, qual è stato? Qualcuno ha detto questa roba è stata la risposta al picco delle rivolte, che è stato registrato anche dall'apposito think tank del Fondo Monetario Internazionale tra il 2019 e il 2020 in giro per il mondo. Se volessimo stare anche alla narrativa mediatica del mainstream e volessimo dire che è stata la risposta alla generazione del Fridays for Future, con tutte le critiche che possiamo fare, ma questa esperienza biennale è stata o no la dimostrazione da parte di quei centri di potere che quella macchina, quell'architettura tecnoscientifica incorporata al capitale, ormai coincidente, indistinguibile dal funzionamento stesso del capitale, è la sola risposta attraverso Pfizer, attraverso Moderna, anche attraverso la guarigione della sclerosi multipla, ma è la sola risposta disponibile? È o no questa l'esperienza che è stata diffusa e organizzata in questi due anni? Secondo me sì, e secondo me questo programma è la sostanza del programma politico di gestione della pandemia, che non significa che la pandemia sia stata elaborata programmaticamente, significa che la gestione ha risposto a un programma con molte difficoltà, ma alla fine si è conformata su quel programma. Nel corso di questi due anni si è riunita intorno a quel programma, dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese all'amministrazione degli Stati Uniti, alle due amministrazioni degli Stati Uniti. Allora è su questo che noi dovremmo guardare al futuro delle nostre lotte. A che cosa guarda il PNRR se non al Green New Deal da qua al 2050? E questo Green New Deal da qua al 2050 non coincide forse con questa stessa proposta paradossale, cioè che questa macchina, che coincide con ciò che porta al limite lo sviluppo capitalistico e la sostenibilità dello sviluppo capitalistico, è la sola disponibile a gestire questo limite? Allora, su questo noi dovremmo riunire le forze e provare ad andare oltre alla narrativa no Green Pass e no Vax, e provare a riconfigurare i punti d'attacco. E allora forse anche quelle pratiche sempre disponibili del sabotaggio e dell'attacco possono trovare dimensioni di massa e dimensioni di relazione, dimensioni di incontro che possano far fare un salto di qualità. Chiudiamo l'iniziativa, ringraziamo tantissimo i compagni che sono venuti qui a raccontarci tante cose interessanti. D'altra parte, non lo so, non si potrebbe mai finire di parlare, e anzi ci sarebbero tante conclusioni da trarre, però riflettiamoci sopra, grazie tantissime, e chiudiamo qui di necessità virtù soltanto perché è tardi. Ciao.